Benvenuti a questo podcast speciale. Adesso sentirete Edoardo fare un'altra intro perché siamo in live. E niente, buon ascolto. Extra special. Esatto. Questa è una puntata live, una discussione con Edo. Adesso lo sentirete arrivare a breve. Magari taglierò il silenzio che c'è tra noi che smettiamo di parlare. Ci siamo. Sera. I miei ospiti ci sono? Sì. Buonasera. Forse è meglio se mettiamo. Forse però dobbiamo accendere la webcam. Potrebbe essere interessante, non trovo. Potrebbe essere utile. Abbiamo scordato una cosa importante. Ah, io noto che sono. Ecco. Ok, grazie Andrea. Anche io in penombra, ma va bene, dai. I bambini. Ma non si preoccupi. Marco, per favore, non faccia così. Allora, mi dice your sound alert browser source is offline. Cominciamo benissimo, direi. Direi che mentre tu ne approfitti per risolvere eventuali problemi tecnici. Presentatevi! Visto che stiamo anche registrando noi questa puntata, direi di iniziare subito con un bentornati, benvenuti a questo extra special episode of il nostro Focolare Elettrico, podcast di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E io sono un ospite nel nostro podcast. E qui con noi. E giustamente, qui con noi, ospite e ospitante, a questo punto, nel suo canale di Twitch, c'è il nostro carissimo amico Edoardo, giusto? Presentati con il tuo nome da Twitcher. Xbratipo X. Bradipo. Solo perché sei ospite sia nel senso italiano che nel senso comune. Cioè, sì, esatto. Sei ospite e ospite. Assolutamente. Anche noi siamo ospiti. Esatto. Okay, non so se le sound alert andranno per questa live. Vabbè, amen. Se non ci sono le sound alert faremo senza. Non è fondamentale, diciamo. Ok. E quindi, come dicevo, puntata extra special quella di oggi, ovvero una puntata trasmessa in onda in diretta su Twitch e allo stesso tempo registrata per parlare di qualcosa che, come dire, sentivamo forse un po' la mancanza visto lo scorso anno come è passato, no? Esatto. Dalla canotta, scusate, io devo interagire con la chat, lo so che voi del podcast non avete rompiballe nella chat che vi dicono ma Edo sei in canotta. Sì, Sala, sono in canotta per questo perché non faremo mai i Twitcher. E fate bene. Ops, non dovevo dirlo. E niente, no, perché fa un caldo porco, quindi non ho voglia di cioè già così sto sudando, quindi eviterei di. Sembra l'episodio di Dragon Ball con Arale. Di noi è Arale, sarebbe. Oppure Junior e Goku prendono la patente. Esatto. Uno dei più bei episodi. Io ricordo tanto cielo. E quindi, come dicevo, allora, chi parla? Ecco, questa è una buona. Questa sarà una cosa regge interessante, perché stanno per combattere tre, almeno io e forse anche Jacopo sarà d'accordo con me, quindi due persone che amano sentire il suono della propria voce e Edoardo che ci sta ostando sul suo canale, quindi dovremo litigarci un po' il microfono principale. Allora, io, visto che la visuale fa da padrone, lascerei lo scettro a Edo, almeno finché non partiamo per la tangente. Quindi domande, diciamo. Così Salla è contento. Quindi allora, Edo, l'argomento di questa puntata, ecco. La parola che allora, dicendo. L'argomento di questa puntata è sostanzialmente l'hype nei videogiochi. Diciamo che non è fatto adesso, cioè questo tema non viene tirato fuori adesso a caso, perché, vabbè, come penso quasi tutti sapranno, cioè c'è stato adesso l'E3, diciamo per me è stato un E3 abbastanza incredibile, nel senso tantissimi gameplay belli, secondo me. E quindi diciamo il tema è quello dell'hype, quello diciamo generico del mondo dei videogiochi, visto dal vostro punto di vista, che siete fondamentalmente programmatori, quindi nel senso anche diciamo dal dal lato, diciamo, dal lato non consumer, ma dal lato producer, diciamo. E poi vorrei parlare appunto di perché ci sono i delay, diciamo, nel rilascio dei videogiochi, perché non ci sono, quando è meglio che magari ci siano o no. Cyberpunk non è caso proprio, uno a caso per esempio, e niente, quindi vorrei se voi accondiscendete, non so se l'ho detto giusto, acconsentite, ecco, vabbè, quello, io diciamo vi propongo questi temi. Okay. Temi assolutamente interessanti, che perché, come ricordavo io prima, sentivamo un po' la mancanza di questa conferenza dall'anno scorso, che purtroppo, Madonna, cause che penso ormai tutti conoscano, non c'è stata. Beh, una conferenza, sì, cioè più un evento, un insieme di conferenze, no? Questo E3, che, per chi non lo conosce, stiamo parlando dell'E3, che sarebbe Electronic Entertainment Expo, quindi una specie di esposizione, che pre-pandemia si teneva ogni anno. L'anno scorso, per forza di cose, non si è tenuto, e diciamo coincide con quello che è il Natale per i gamer, diciamo. Questa, esatto, sfilza di conferenze, di annunci, di aggiornamenti, sì, cioè di novità, insomma, dei videogiochi, spesso parecchio eccitanti e piene di hype. E quindi questo è riassunto per definire di cosa stiamo parlando, cioè, o meglio, perché ne stiamo parlando ora, insomma. E te, che tra l'altro non sono sicurissimo di quello che sto per dire, è ancora in corso o è già finito da poco? Dipende a chi chiedi, diciamo, per la maggior parte delle persone è finito. Ok, beh sì, di solito in questo momento ci sarebbe il vero E3, cioè diciamo il vero E3 tecnicamente sarebbe proprio l'apertura delle porte di questa specie di zona fiera, e tutti i giornalisti, anche qualche privato, cioè entrano e giocano a questi giochi, parlano con gli sviluppatori. Per esempio, famosamente, all'E3, mi sembra del 2018 o 19, non ricordo, mostrarono Cyberpunk a porte chiuse, cioè a dei giornalisti mostrarono una versione molto, diciamo, come alfa. Posso dire? Molto alfa, cioè molto poco pronta, molto iniziale di Cyberpunk, che non mostrarono mai al pubblico. Ne mostrarono una simile qualche mese dopo, ma... Oppure è proprio quella che abbiamo visto. Forse era proprio quella che abbiamo visto. Certi punti di vista. Ma sì, no, infatti, quello che diceva Jacopo, penso volesse intendere che appunto per noi, grande pubblico, che non possiamo andare fisicamente a Los Angeles, è possibile che, esatto, si tenga a Los Angeles, e, per noi, dicevo appunto, l'E3 è passato ormai, nel senso che da sabato scorso, venerdì, sabato. Anche dipende da chi chiedi, però sì. Va bene, diciamo da sabato scorso, con per motivi personali, ci sono state una serie di presentazioni serali, di trailer, annunci di tutte le più grandi case di videogiochi del momento. No, perché quest'anno non c'è la versione fisica, quindi comunque finisce lì per tutti, insomma. Assolutamente. Esatto. Quindi, Edono, tu mi hai detto che avevi già pronto tutta una scaletta, direi che come ottimi Twitcher, direi che la prima cosa da fare sia guardare video su YouTube. Questo punto, come, beh sì, però nel senso, intanto prima di tutto però vi chiederei, sì, ok, voi avete un podcast, tutto molto bello, ma non avete detto come si chiama, se non sbaglio. Io non l'abbiamo detto? Sì, no, beh, l'ho accennato, era all'inizio con la solita introduzione, benvenuti al nostro focolare elettrico, appunto, il nostro podcast di videogiochi e game design. Perfetto. In cui ogni circa 2 settimane... Mentre che siamo stati abbastanza regolari con gli... Infatti avevamo chiamato che è irregolare, invece siamo stati regolari alla fine. Siamo, wow, stati molto più regolari di quanto non pensassimo. Bisettimanalmente, questi avverbi. Mamma mia. pubblichiamo un episodio dove principalmente siamo noi o che facciamo lunghi elenchi senza un vero e proprio senso, oppure, come ultimamente ci stiamo sforzando un po' di più, parliamo tra amici di un argomento, diciamo un tema riguardante il mondo dei videogiochi, che sia da un punto di vista di consumatori che da un punto di vista, magari appunto come dicevi tu prima, di speranzosi designer, speranzosi programmatori, appunto, di finti esperti, diciamo. Finti esperti, quello sembra. Beh, finti esperti. Non so cosa faccio della mia vita. Ci tengo anche a citare che questo podcast fa parte dello stesso universo, diciamo, narrativo del mio salotto, che non è il mio salotto, però si chiama Il Mio Salotto, che è un podcast invece di cinema, e quindi ogni tanto ci, diciamo, facciamo crossover di persone. Sentirete voci familiari entrambi. Tra l'altro noto con un'estrema professionalità già il punto esclamativo a focolare e salotto nella chat. Esatto, nella chat ci sono tutti i riferimenti, sia al blog, sia ai blog che agli Spotify, perché entrambi i podcast sono su Spotify. Niente, proseguirei, diciamo, facendovi intanto una domanda un po' bruciapelo e a cui dovete rispondere in maniera sintetica. So che è impossibile, perché lo so. Ok. Però vi chiedo, qual è il vostro gioco preferito? Addirittura. Boom. Boom, così. Proprio così. Di quelli... Posso dire io quello di Marco. quello di Marco, diciamo, ho una leggera indecisione, però lo posso supporre. Vabbè, se si va solo per numero di ore è uno, se si va per altro. No, vabbè, vai per amore, dai, vai per amore. Andare... Cioè... Per amore è difficile, per amore. La chat, in particolare Sala, suggerisce Fortnite. Quello sempre, sempre nel cuore, assolutamente. Ma diciamo che ultimamente come gioco che mi presenta, che... è un po' il mio curriculum videoludico, perché ci ho speso veramente, non fatemi aprire le statistiche di Steam, troppe ore, è probabilmente The Binding of Isaac, come abbiamo già citato altre volte nel nostro podcast. Praticamente ogni volta. Praticamente ogni volta, perché appunto io lo prendo come esempio di vera definizione di quello che è per me un videogioco, è... uno dei giochi più grandi per estensione, per contenuto, che vi sia mai stato prodotto, credo, da sempre, sinceramente. Magari viene rivaleggiato da giochi tipo MMO online alla World of Warcraft. Addirittura? In quanto a quantità di contenuto, probabilmente sì, nel senso di sicuro, quei giochi lì che esistono da ormai quanto? 20, quasi 30 anni? E che vengono costantemente aggiornati, è ovvio che avranno più contenuto, però come gameplay, come singolo progetto videoludico, lo trovo sinceramente tra i migliori. Seguito questo lo metterei nel titolo, metterei Binding of Isaac è meglio di World of Warcraft. Citatemi, la tocca piano. I miei avvocati poi vi risponderanno. Poi a seguire, diciamo, quello lì è diventato più che altro un meme nel nostro gruppo, da quanto io, come dicevo, l'ho giocato e lo sto ancora giocando, perché devo ancora finire l'ultima espansione uscita, ma appunto viene seguito, ma pari passo da giochi come Dark Souls, Fallout New Vegas e altre piccole gemmine molto indie che sinceramente non sto qua a citare, che come appunto diceva Edo, cerchiamo di essere brevi, perché sennò... Ah sì, perché... Cioè, poi conoscendovi, immagino che avreste, giustamente, state, cioè, conducete un podcast di videogiochi, quindi direi che di cose da dire ne avete, sì, quindi... Però stavo dire un'altra parola, ci censuriamo. C'è la chat che scalpita, scusa Marco, prego, che scalpita prego. Perché non è stato fatto in particolare un nome. Vediamo se senza leggere la chat voi riuscite a capire qual è questo nome. Ah, cosa non ho citato? FT? No, non lo so. No. Il gioco di Marco? Sì. Potrebbero essere i giochi dei Pokémon, la serie dei Pokémon. Ah, beh. forse, ma sì, anche quello un altro meme a sé stante, quasi. Ti avvicini come regione geografica, diciamo, come regione geografica, se possiamo dire così, però. Adesso, ovviamente mi sta venendo il vuoto. Jacopo, aiutami tu, che cosa... Ma un gioco che a te sta particolarmente a cuore. No, cioè, pensate più a una persona, diciamo. Ah, ma quella arriverà dopo. Ecco, qui c'è la lore. Qui c'è la lore del podcast. Quella arriverà alla fine, quella persona. Però, perché, giustamente... Ultimamente, ora che mi ci fai pensare, dovremmo fare quello anche in questa puntata, effettivamente. Certo, ma ci sarà motivo e occasione alla fine della puntata, tranquilli, perché lui non si fa mai indietro. Mancare, diciamo. Esatto. Si fa mai mancare. Diciamo, per me, già ne abbiamo parlato, non sarei la persona che sono senza lo 3, nel bene, ma penso soprattutto nel male. E quindi, cioè, se penso ai giochi che mi sono rimasti nel cuore, lo 3 mi appare subito come nome. Non c'è bisogno che io dica perché, siamo in un canale che fa parte di Tech Games Italia, lui Infinity Italia, quindi... Grazie Jacopo che mi ha ricordato questo. Saluto ai nostri sponsor e grazie. Rincoglionito quale sono, mi sono dimenticato di aggiungere... Ah, è vero, mancano gli occhi. Mi uccideranno. Mentre edo fix questo errore... Cioè, il canale Telegram che sta... Ti sta mettendo faccio io fuori. Un commento. Sì, esatto, mi hanno praticamente buttato fuori. Dicendo invece che sai che se invece mi avessero chiesto a me quale fosse stato il tuo gioco preferito... Non avrei saputo dirlo. No, questo è uno, cioè questo era per dire... Assolutamente, ma fammi finire perché è esattamente quello, cioè quando parlo con te mi fa quasi impressione l'amore che hai per questo medium e quanti titoli vai a provare, la quantità di cose che provi in giro in tutti i temi differenti. Cioè, per me sei tipo la Magna Carta, l'enciclopedia umana del mondo dei videogiochi. Grazie, ma c'è proprio un meme di Luca Oddis, il maestro, che quando eravamo in casa insieme all'università con Edo entrava in camera e mi vedeva giocare a giochi cioè sempre più assurdi, sempre più e ce lo ricordiamo bene. Inuit con sottotitoli in norvegese, cioè roba tipo che come la vedi tipo Thomas Was Alone, che come lo vedi sono dei rettangoli colorati e giustamente ti viene una sincope. Però vabbè, diciamo, beh, seriamente, a parte titolini, cioè indie appunto, che non stiamo qui a citare, che mi hanno devastato emotivamente, Psychonauts. Cioè, quando tu hai detto giochi che, diciamo, i tuoi giochi preferiti, Psychonauts è uno dei pochi giochi che riesce a farmi ridere, che mi ha divertito, che mi è piaciuto, che lo gioco più volte. È un platform che ora è un genere un po' passato in sordina. E quindi niente, cioè direi principalmente questi, così a occhio. Ce ne saranno altri 200, ma fermiamoci, se no finiamo domani. E quindi Edo, c'hai già un po' troppo leccato... Ecco, sì, un po' cosa, una certa frizzantezza, cioè ci voleva, diciamo. Aspetta Edo, fra frasi 10 ci ho azzeccato? No, cioè diciamo che è nella sicuramente top 10, diciamo. Ok, sono dall'1 al 9 il prima No, dalla chat dicono Guild Wars probabilmente per numero, se io dovessi fare per numero di ore probabilmente Guild Wars. Ecco, Minecraft, ok, Salla bannato, mod bannatelo per favore. Ma Salla è un mod, è un mod lo stesso. Salla autobannati per favore e poi sbannati automaticamente. Se devo dire il gioco per cui mi sono appassionato al mondo dei videogiochi, cioè i due giochi, cioè ragazzi, questo penso che non ve l'aspettate, meglio, uno ve l'aspettate e l'altro no, i due giochi per cui mi sono appassionato al mondo dei videogiochi sono, secondo me, da quello che ho memoria, Crash Bandicoot. Sì, ok, e il buon Luca ci ha preso. Ma l'altro, ragazzi, penso che non ci potete arrivare minimamente, ed è Hercules. Ah, ok. Per PS1. Hercules per PS1, e poi vabbè, nel frattempo poi uscirono, non ricordo di preciso in ordine cronologico, però vabbè, poi Pokémon, diciamo Game Boy Color, eccetera. Però sì, se devo dire, se devo fare, diciamo, una top 5, direi Crash Bandicoot, Halo 3, Guild Wars, Final Fantasy X, e ci possiamo mettere, non lo so, ci dovrei pensare. Dai, rimaniamo a questi quattro. Hercules, mettiamoci Hercules. Mettiamoci Hercules, perché, diciamo, a livello cronologico e affettivo, diciamo, forse... Bene, ci siamo tolti l'introduzione, quindi... Conoscono ormai anche fin troppo bene tutti i nostri ascoltatori. Esatto, anche troppo. Vabbè, ecco, forse direi LOL anche per numero di ore, ecco, l'ho trovato qui. Vabbè. Quello è più uno stile di vita che... È uno stile di vita. Ok. Bene, abbiamo introdotto l'argomento è E3. Per introdurre ancora meglio questo argomento, io andrei a vedere se a voi va. Mi dispiace per chi, diciamo, usufruirà del podcast, perché ovviamente essendo un podcast non può vedere i trailer, ma vi consiglio di andare a recuperarli. Da cosa vogliamo partire? Allora, io vi dico solo, lascerei Halo per ultimo, così ce lo gustiamo bene. Ma possiamo guardare solamente Halo e Forza, direi. O anche lasciar perdere Forza, se volete. Cioè, possiamo anche... Addirittura vuoi andare così subito sul... A secco, così su Halo? Dai, sì. Non lo so, un Battlefield non lo vogliamo vedere, non lo vogliamo commentare un pochino. Direi che per argomentare un po' il podcast, uno che dovremmo sicuramente vedere è anche quello di Zelda. Per argomentare... Ah, va bene. Zelda. Come vado dire, a... per... ripescare se lo trovo, forse era dopo, era nella conferenza Nintendo, giustamente quella, se cerchi Zelda Breath of the Wild, beh, giustamente è uscito recentemente. Ok, poi ovviamente faremo una piccola pausa successivamente per, diciamo, fare un po' di pubblicità a Jacopino, giustamente, perché cazzo abbiamo l'onore di avere un Ma si può dire per chi lavori? Che si può dire? Vabbè, partiamo da quello, così ce lo togliamo. Ok, va bene, poi... che tanto più o meno siamo in argomento, così già ho superato qualcosa. Un puntatore laser sulle nostre fronti. Esatto, cioè c'è un cecchino qui fuori dalla finestra pronto a... Esatto. Sopprimerci. Ok. Allora, stiamo vedendo, facciamo un po' di narrazione per chi ascolta il podcast. Stiamo guardando questo trailer di Zelda Breath of the Wild, il sequel di Breath of the Wild, scusate, che ancora non si sa come si chiama, cioè si chiama la semplicemente... camera si apre su una notte oscura, no. Esatto, l'audiodescrizione. Allora, questo trailer è importante secondo me per tanti motivi, è molto rilevante per il discorso che stiamo facendo in questo episodio, come ha detto Marco. Comunque mostra il gioco in azione, cioè questo è effettivamente il gioco, mi sembra, e presenta tante cose senza parlarne, presenta tante novità, per esempio nemici che si possono scalare, un mondo molto più verticale nel cielo, questi poteri di cose che vanno al contrario nel tempo, Link che va verso l'alto e passa attraverso un pavimento, insomma, ci sono tante novità di gameplay, tante cose di storia un po' strane, perché ho giocato al primo Breath of the Wild, ma soprattutto non c'è un nome e non c'è una data precisa. Cioè, nel senso, è tutte queste cose, ma allo stesso tempo... E infatti non è The Legend of Zelda 2022, il sottotitolo, ma è semplicemente la possibile data d'uscita. Secondo me, questo trailer, forse... non so se più tra tutti, però uno di sicuramente tra i più rappresentativi di quello che vogliamo parlare oggi, dell'ultime tre, è l'hype. È quel dire e non dire, mostrare e non mostrare, che serve non solo a ricordarti che sta per uscire uno Zelda, ma fatelo desiderare ancora di più. E, come dire, a farti odiare l'attesa quasi, no? Esatto. Perché abbiamo visto che comunque è 2022, quindi, diciamo, esatto, non è a brevissimo termine l'uscita. Ancora parecchio da aspettare. No, ma diciamo poi... Che... No, sì, di pure. No, una cosa che non fa questo trailer, secondo me, è mentire, nel senso che si tiene un po' sul vago, non c'è una persona che parla, che spiega meccaniche, che presenta queste meccaniche, che promette cose così, solo per generare hype, solo per, diciamo, per vendere un gioco che non c'è, nel senso è un po' un bilanciare il mostrare quella che è l'intenzione, quello che è lo stato attuale del gioco e il, diciamo, dare anche un'idea di come sarà quando è finito, no? È un po' questa problematica. Secondo me questo trailer non è così male, però appunto è un po', mostra un po' i problemi che ci sono stati nell'ultimo anno e mezzo, no? Negli sviluppi un po' mondiali. Diciamo, ci ricorda un po', sempre per tornare un po' al tema, all'altro tema Halo, quello che avevamo visto precedentemente negli scorsi trailer con Halo Infinite, secondo me. Sì. Cioè, esatto. Diciamo, un qualcosa di potenzialmente super figo, ma c'erano oggettivamente dei problemi. Ora, diciamo, si spera che questi problemi, anche con i trailer visti alle tre, che personalmente mi hanno soddisfatto parecchio, questi problemi siano risolti. Questo, scusate la piccola parentesi mondo Halo. Nel frattempo saluto Vorla, ciao, grazie per... Assolutamente... Ciao Vorla! ...essere arrivato, ciao Bordino, il paperone. Allora, colgo questa occasione prima che lo prema play. Ecco, dici qualcosa. Allora, io sono qui. Scusa, tu stai già parlando del prossimo te, giusto dire un'ultima cosa su quello di Zelda. Vai, Marco. Ci devi notare tu. Non è assolutamente uno di quei trailer parlati in cui l'hype si sente, ma si sente artificiosa. Su quello non si può dire nulla da Nintendo, nel senso che è sempre stata molto onesta con i trailer che aveva fatto. Forse anche troppo nel caso dei Pokémon alcune volte, ma quello è un altro discorso completamente. E in effetti questo lo metterei come esempio di quell'hype più sana che si può avere, diciamo. Ti fa vedere, punto uno, ti fa vedere cose di gioco, nel senso non sono cinematic, sono momenti di gioco. Ti fa vedere la base, ti fa vedere il mondo di Link che esisteva ancora prima del gioco precedente che uno già conosce, e allo stesso tempo ti fa vedere qualcosa di nuovo che uno non si aspettava, appunto i nuovi poteri, i nuovi, appunto, ti fa chiedere ma cosa significa tutto questo, perché quella palla ferrata si muoveva in quel modo, perché Link passa attraverso le rocce in questo momento e ti dà boss, grazie per essere qui, scusate. No, figurati, ringraziamo chiunque sia arrivato in chat, e appunto, come dire, ti dà quell'assaggino, ti fa capire che c'è qualcosa sotto, che c'è qualcosa in serbo, te lo fanno usare, esatto, quel odorino, per poi dopo lasciarti a bocca asciutta. Questo secondo me è una buona hype, non ti promette l'universo, non ti promette il mondo, non ti dice potrai volare nei cieli dell'immaginazione, ci sta. Ma Jacopo, parlaci del prossimo trailer che andiamo a vedere in questo momento. Ecco, quello che volevo dire è questo. Io sono qui non... Cioè, io sono qui in qualità di me stesso. Cioè, non sto... In ufficiosa, diciamo. Oh. Esatto, non sto rappresentando niente e nessuno, sono solo un programmatore, un designer, non sono stato, diciamo, briefato, cioè non posso dire nulla. Posso dire solamente questo. Sto lavorando a questo gioco che vedete ora. Cioè, il trailer che sta mostrando adesso Edo, che voi, vabbè, nel podcast non lo vedete, però vabbè, ve lo racconto, è Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Dici quando vuoi far partire. Sì, è partito il... È partito il trailer. È bellissimo, cioè, non vedevo l'ora di dirlo che ci stavo lavorando, ci sto lavorando da ottobre, tipo, da settembre. E niente, cioè, sono molto felice di essere qui e di lavorarci, ma non posso dire, non ciao, posso mamma, dire altro. Ciao mamma. Nell'istante in cui è uscito questo trailer, e anche quello dopo, l'ho mandato a tutti, cioè, l'ho spammato su qualsiasi chat, babbo, mamma, possiamo amici, cioè, sì. Vabbè, chiaramente. Cioè, a chiunque. Ci sta, direi che devi assolutamente essere, come dire, per quanto piccoli ingranaggi nella macchina del videogioco, dovremmo... Tu hai meriti assolutamente di essere fiero di stare lavorando, esatto. Un gioco che, almeno da quel che ci racconti, come dire... Diciamo che è un po' più di anima della media del videogioco attuale adesso. Io non racconto nulla. È Mario Plus Rapid Sparks of Hope. Potete vedere quello che potete vedere nel trailer, anzi nei trailer. Andate a mettere mi piace sulle cose, comprate Nintendo Switch, prenotatelo, eccetera. Nintendo, se vuoi sponsorizzarci. Esatto, cioè, se vuoi darci soldi, sei sempre benvenuta. Quindi mi tenevo però a dire, cioè, le mie opinioni, quello che dirò qua, non si riflettono sullo sviluppo di questo gioco o di Flight Simulator, e sono solo le mie opinioni, cioè non sto parlando per nessun altro, e appunto non posso rispondere a domande sul gioco, non posso dire nient'altro che non sia nel trailer. Se volete vi dico cosa succede nel trailer, ma cioè, semplicemente adesso che l'altro sto mostrando il trailer, quello cinematico fatto in CGI, quindi più per presentare un po' la storia e poi magari vediamo anche il trailer, quello un po' del gameplay. Esatto, c'è un mini trailer dopo di un minuto e mezzo di gameplay. In mezzo tra questi due trailer nella conferenza c'era una mia intervista a Davide Soliani e a Xavier Manzanares, che sono lead del gioco. Uno è più, diciamo, director designer, l'altro è più un producer. E niente, hanno mostrato una versione più corta al Nintendo Direct, magari, non so, forse avrei dovuto mostrare quello per non stare qui in silenzio. Mentre devo far vedere, magari, se vuol far vedere la parte anche di gameplay del trailer. Esatto. Se volete, potete commentare voi, potete parlare voi. Io sto qui e cerco di non reagire. Se volete fare questa sfida. Allora, aspetta, dove faccio io prima... volevo fare qualche osservazione sempre dal punto di vista... Da quello sopra, è quello da un minuto e mezzo. Questo qui, okay. Ok, grazie, scusatemi. No, io vorrei solo, intanto leggere un secondo la chat. C'è Jacopo, il cugino del maestro, quindi Jacopo, ci ha detto, ha scritto: Nintendo ha sempre avuto un approccio alla toe, prendetevi questo, tanto è questo. Tanto questo è. Esatto, sì. Poi il buon Luca dice che si potrebbe dire che Jacopo sia il Wes Anderson dei videogiochi. Sicuramente sì. Mentre Salla, ovviamente come sempre, diciamo, è frizzantino e dice: il punto di vista di Jacopo ha più mani avanti di un Macamp siamese. Mi aspetto mezz'ora di bestemmie, esatto. Possiamo passare al trailer. Il commento della Nintendo ci può stare, secondo me, in questo caso assolutamente, ma anche perché è una veramente delle poche compagnie che secondo me se lo può un po' permettere, almeno per titoli, per alcuni titoli sicuramente. Titoli come Zelda, serie come Zelda e quella di Super Mario, fai fatica molto spesso con le nuove uscite a trovare effettivamente, non dico difetti, ma qualcosa su cui veramente criticarli. Cioè non si possono criticare per qualcosa che hanno fatto di sbagliato. Possono aver preso scelte di design interessanti che magari potevano essere fatte in maniera diversa, sì, ma non sbagliato nel vero senso della parola. Non si può dire, sì, sì. Non alla Cyberpunk, per tornare, no, al tema precedente, su certe serie. Quindi assolutamente un commento valido, però, come dicevo, è una delle poche compagnie che se lo può permettere una cosa di questo tipo. Invece, come dicevo prima, Jacopo, io volevo analizzare questo trailer per quanto riguarda l'argomento di questa sera, ovvero quello del live. Che secondo me, ecco, vedi, questo potrebbe essere un esempio di quelli in cui si punta un po' meno al live, no? No, almeno a me è sembrato così. Punto uno, almeno quello cinematografico. Ma siate in hype! Guardate finalmente questo gioco che ho lavorato per tanti mesi. Quanto... Assolutamente. No, non per sminuire assolutamente Mario & Rabbids. Quello che però volevo dire io era... Mi sembra sia un atteggiamento un po' diverso, cioè non punta tanto a creare troppo mistero, troppo chissà che cosa può succedere, perché alla fine, come dire, è difficile comunque da fare in un gioco che è, non dico esiste già, nel senso che ha un prequel, no? Perché questo è il sequel di Mario & Rabbids uscito quando nel 17 probabilmente 17, forse potrebbe anche essere 16, buttiamola lì così. No, non 16, no, è 17. E l'espansione è nel 2018, l'espansione Donkey Kong. Quindi sì, viene, o almeno a me è sembrato così, e poi magari mi sto sbagliando io. È stata una presentazione abbastanza lunga, non è stata quella semplicemente di... Ah, ho capito che intendi. Quella di Zelda che ti dava un assaggino e poi ti mandava via. Lì c'era una storia, c'era una presentazione, vedevi che c'erano questi nuovi personaggi, questi nuovi nemici, ci sarà questo grande cattivone, questa specie di spirito incappucciato nel cielo che probabilmente, come dire, darà filo da torcere a Mario e ai nostri conigli. Però non c'è tutta quella specie di mistero di vedere e non vedere, come dicevo prima con Zelda. Quindi mi devo coprire la faccia mentre dici queste cose. O almeno è sembrato a me, cioè mi sembrava un tipo di hype diversa. Sì, bello anche il libro di The Witcher. Sì, esatto. Un hype sotto un certo punto di vista diversa rispetto a quella del trailer che abbiamo visto poco prima. Vabbè, secondo me comunque ci può stare, nel senso, cioè come dici tu, è proprio un tipo di gioco diverso che secondo me, cioè non che non richiede hype, però nel senso magari non è un gioco da cui ti aspetti, non so come dirlo, cioè per dirla, un colpo di scena di trama magari o di gameplay così assurdo, cioè secondo me è un gioco a cui giochi tu per puro divertimento, cioè che non è, nel senso, cioè che solitamente diamo per scontato, ma in realtà non lo è, cioè nel senso fondamentalmente penso che i videogiochi nascano un po' per quello, insomma, per divertire, e molto spesso in realtà secondo me molti giochi non riescono, cioè, secondo me, è vero, cioè, secondo me è dato troppo per scontato, ma non tutti i giochi puntano a divertire, però è vero che molti che ci provano falliscono, questo sì, purtroppo è vero. Diciamo che forse io le sfumature del divertimento, diciamo, non intendo divertimento nel senso che ridi, cioè intendo divertimento bravissimo. Cioè, no, ho capito che intendi, sì, cioè, intrattenimento, hai, come si dice, stai godendo dell'esperienza, stai... Esatto. Ho capito. Cioè, per dire, vabbè, faccio un esempio... è fun continuo... e non è funny, no? La differenza che c'è in lui. Esatto, esattamente. O per fare un altro esempio, sempre magari con Halo, nel senso... cioè, sì, ok, Mario & Rabbids avrà la sua trama, quello che... insomma, immagino, poi non lo so, però compra lo Switch, gioca a Kingdom Battle e poi ne parliamo, perfetto. Però per dire, no, scusami, continuo, non... cioè no, pure, nel senso, un po' di lag, sto laggando? No, di senso, questa pausa tra una cosa mi fa sempre pensare che sono io che non so parlare, scusami. Cioè, per esempio, da una saga come quella di Halo, che, diciamo, ha una quota parte di trama, di ansia proprio da storia, diciamo, hai più bisogno dell'hype, perché ormai sei talmente tanto coinvolto nella trama, che magari se poi non ti piace la trama, ma ti piace il gameplay, magari ti fa cagare proprio tutto il gioco e non ti diverte. Cioè, poi magari non è sempre detto, però probabilmente non sono neanche stato chiaro nell'esprimere il mio pensiero, però cioè magari mentre con Mario, con Super Mario in generale, cioè sì, c'è una trama di fondo, però diciamo lo giochi per divertirti, cioè effettivamente per divertirti, come può essere per esempio un Crash Bandicoot, cioè sì, c'è la trama, ma fondamentalmente ci giochi perché ti diverte. Ecco, anche qui si potrebbe aprire un mondo, perché che Crash Bandicoot 1 sia divertente, cioè nel senso hanno cioè, provato, hanno fallito i flash del Vietnam, cioè nel senso si è capito, forse sono riuscito a farmi capire un minimo, comunque ci sta, forse stavi cercando quello che mi che sono riuscito a cogliere, che cercavi di dire, che appunto alcuni videogiochi tendono a puntare un po' di più magari a storia, narrativa, e per questo è più facile creare un hype, come si può immaginare quella che sia facile da creare per magari il secondo capitolo di una saga cinematografica. Posso immaginare che sempre un altro grande riferimento ai tempi quando si aspettava in uscita alle sale il secondo e il terzo film della trilogia del Signore degli Anelli. Posso immaginare l'hype che si potesse creare in quel momento per sapere, no, per vedere come la storia andava avanti, per chi, almeno chi non aveva letto il libro. Mentre giochi che si basano più su quella componente giocosa, perché effettivamente non c'è un altro termine per definirla, hanno più difficoltà a creare questa hype, come appunto da colossal cinematografico. Zelda, okay, facciamo un attimo, esatto, un attimo di eccezioni. Esatto. Il trailer di Mario Odyssey, dove lui lancia il cappello e diventa la rana, dai, cioè, hype a mille, nel senso. E poi in realtà mentre ci pensavo ho anche, diciamo, ho anche pensato, ma cazzo, ma ho detto una stronzata, perché se poi ci penso, in realtà molto spesso il trailer di alcuni giochi multiplayer mi ha fatto stare veramente con un hype indescrivibile. Anche. Quindi in realtà, cioè, diciamo, il mio discorso vale, ma fino a un certo punto. No, vabbè, dipende da quanto affetto hai per un gioco, da quanto il trailer è fatto bene. Sì, probabilmente quanto, è quello che... Tipo a me, io Sea of Thieves un po' ci ho giocato, nel senso ci sto giocando, e il trailer di Sea of Thieves con i Pirati dei Caraibi mi ha hypato, nel senso è una cosa idiota, però, cioè... Visto che l'hai nominato, dai, guardiamolo. No, semplicemente, dai, perché... no, semplicemente i Pirati dei Caraibi più Sea of Thieves è una cosa... In poche parole, hanno messo Jack Sparrow, dai, cioè, diciamo. No, ma non hanno messo solo Jack Sparrow, cioè, no, hanno fatto proprio una fusione, cioè. Assolutamente, sì, hanno fuso molto i due universi in collaborazione con la Disney. La mia voleva essere più una battuta, e infatti forse è anche lì che si potrebbe parlare di un altro tema, perché nominando il trailer del Pirati dei Caraibi, che Edo ci sta gentilmente... No, non è quello, non è quello, però è... Orchestra qualità, cioè, nel senso, è stato girato in 4K e noi ce lo vediamo in un altro trailer di cui Jacopo ci parlerà tra poco. Ma quello che volevo dire sul trailer dei pirati di Sea of Thieves più Pirati dei Caraibi è appunto che vedi, e Jacopo l'ha vista in diretta perché l'abbiamo guardato praticamente insieme, no, su quella parte di conferenza, e che a lui era hypatissimo. A me sono abbastanza cadute un po' le biglie, chiamiamole così, in quel momento. E questa penso sia un'altra cosa che va citata dell'hype, nel senso che quando si basa molto così tanto, così come effettivamente anche per Mario & Rabbids, sull'amore che i giocatori hanno per i personaggi, perché infatti se guardando il trailer di Mario & Rabbids, quello che mi viene in mente era appunto che uno che amava tanto il personaggio di Mario e il personaggio dei conigli, che tra l'altro nasceva nella saga di Rayman, se non sbaglio, e vederli uniti insieme, ritrovare i vecchi personaggi con nuovi personaggi come Bunny, Rosalinda, credo si chiami, Rabbid, Rosalinda e altri strani non so che termine usare, animali, conigli, roditori antropomorfizzati in questo trailer appunto di Cinematic, possa creare questa sensazione di desiderio di voler sapere di più, di vedere come interagiranno questi nuovi personaggi. Stesso modo per una volta quando uno scopre Jack Sparrow nel trailer di Sea of Thieves e lo vede in questa grafica molto cartunesca, ma probabilmente ancora doppiato da nostro amatissimo Johnny Depp. Non è sicuro che sia doppiato da voi. Ma guarda, no, ti dico, non è, secondo me non è solamente l'attaccamento che hai ai personaggi, perché per me il trailer di Sea of Thieves, cioè, mi rende proprio eccitato riguardo i videogiochi in generale, cioè mi sale l'hype non tanto per Sea of Thieves quanto per i videogiochi, no? È come vedere un trailer di Super Smash Bros. In cui arriva Sephiroth o arriva, cazzo ne so, a caso, dici Steve di Minecraft. Cioè, a me questi trailer, questi momenti piacciono indipendentemente da... È l'emozione di fronte alle infinite possibilità? È questa, esatto! Cosa. E poi sono cose sensate! Vedere l'universo esplodere di fronte ai tuoi occhi. Cioè, se ci pensi, Pirates of the Caraibi, cioè, Pirates of the Caraibi e Sea of Thieves insieme, cioè, ha troppo senso. Nel senso... Quello sono assolutamente d'accordo. Come ha senso Top Gun e Microsoft Flight Simulator. Esatto, no? Esatto. Ottimo segue Dunque, piccola parentesi, dalla chat c'è il buon Andrea che chiede: ma perché non nominare un po' Fable? Perché se ce lo facessero vedere, magari, cioè... Mostratecelo, per favore. Cavolo. No, allora, diciamo, togli Flight Simulator, è bello, bellissimo, ci ho lavorato. Come togli? Cioè, dobbiamo vedere Maverick, scusa. Sono orgoglioso di Flight Simulator. Ah, sì, è vero, vediamo Maverick, scusami, cioè... Andrea, il motivo per cui Fable non si è visto è che si è visto Forza Horizon 5. Cioè, non è che Playground può fare 5 cose insieme, nel senso... cioè, basta. Io dire, dai. Due sono abbastanza. Un attimo. No. Andrea dice, quella è la vera hype che neanche te ne parlano. È vero, possiamo dire così. Effettivamente. Comunque anche sì, c'è... questo però è... No, finisci pure, poi dopo aggiungo una cosa. No, volevo... parlare di Forza Horizon, quindi magari prima la fai tu. Ok, no, perché effettivamente non è sbagliato quello che ha detto Luca, nel senso che no, è come quella famosa, più o meno famosa frase, cioè, come fa a mancarti qualcosa se sei sempre lì, no? Cioè, come fai ad avere hype se ti mostrano già tutto? È quello anche, no? Quella strano bilanciamento tra il far vedere e non far vedere, che dicevamo. Hanno fatto vedere un trailer di Fable quando... L'anno scorso, tipo... No, cos'era? Settembre, ottobre, più o meno. No, a luglio, mi pare. Addirittura. E poi non ti hanno più fatto vedere niente. Ricorda quasi un video sul cui... Quello, mi ricordo, mi aveva tantissimo hypato, che era uscito nel... cos'era? 2013? Il primissimo trailer di Cyberpunk mai uscito, che io mi ricordo benissimo, mi aveva veramente... Ah, è vero, sì! Che era quella strana cinematic di... con un sottofondo questa una canzone che ora sembra una canzone... Quasi, che se guardi, poi non ha assolutamente niente quasi a che vedere. No, con no, la... ma il filmato era questa tizia con le lame, diciamo, alle braccia, esatto, che nel gioco ci sono, però la musica di sottofondo, la canzone fa Personal Responsibility. Quindi guardarlo ora è quasi... Molto uomo, ironico, cioè, sì, effettivamente. Oddio, Fable, la stessa quando è uscito, quella è stata una delle... forse ultime volte che mi sono veramente hypato, perché ero ancora, come dire, giovane e innocente. E... Ma parliamone ora. Pensa a quel trailer, no? Come il trailer di Fable. È un trailer in CGI per postare un po' il mood, no? Secondo me ci sta. Cioè, tu fai vedere un trailer che è evidentemente non del gioco, magari presenti qualche meccanica che poi nel gioco ci sarà, nel senso che... se vuoi puoi far vedere appunto le lame, puoi far vedere un po' di... Si spara. Sì, che si spara, che ci sono questi vampiri, Redfall per esempio. Però, diciamo, per me, e questa ripeto, è la mia opinione personale, il trailer migliore è quello che poi viene seguito da gameplay, cioè tu presenti il mondo prima, esatto, magari con CGI o anche no, come ti pare, e poi c'è il gameplay, e diciamo, se vuoi proprio mettere la ciliegina sulla torta, fai vedere la data precisa quando esce il gioco, ed è fra 3 mesi. Nel senso... Esatto. Ne parlavamo l'altro giorno, cioè, il problema è che tu, come marketing, no? Come giocatore... No, scusa, come marketing, intendo come sviluppatore, tu vuoi che le persone che potenzialmente sono interessate al tuo gioco vengano a sapere del tuo gioco in maniera migliore possibile, no? Nella luce migliore possibile. Sì, sicuramente. Quindi tu mostri un gioco, no? Se è un gioco che sai che avrà, diciamo, spazio mentale nella mente dei giocatori, che prenderà, appunto come Fable, no? Puoi mostrarlo tanti anni prima, puoi mostrarlo molto tempo prima, perché sai che rimarrà nella mente dei giocatori, sai che avranno un ricordo positivo associato e quindi non avranno preoccupazioni. Se invece è un gioco che dici non lo so, nel senso o non lo conosci oppure è una cosa che è un po' in difficoltà, vuoi dimostrare, guardate che è un gioco vero, guardate che è bello, che è divertente, che eccetera eccetera. Quindi diciamo, per me è un buon bilanciamento per entrambi, mia opinione. E è ancora meglio... È stato proprio quello il rischio che ha corso Cyberpunk, cioè che ha fatto il classico effetto valanga, no? È stato come il video di Bigfoot praticamente, che ha fatto vedere questa cosa nuova, strana, che non si era mai vista prima, è iniziato a creare questa valanga di idee, di desideri da parte del pubblico, che hanno montato, hanno detto cosa sarà mai questo Cyberpunk 2077, non hanno più detto niente per 7 anni e poi hanno fatto uscire qualcosa, e dopo lì, un po' come è successo anche altre volte, le aspettative erano diventate colossali. E infatti un poco con questo discorso mi ricollego anche a quello che diceva Andrea in chat, che cioè, secondo me, anche in maniera sensata, dice quando uscirà, però poi non sarà come ce lo aspettiamo. Cioè, effettivamente, se poi, diciamo, dalla data del primo trailer alla data di un ipotetico secondo trailer di gameplay, eccetera, cioè, magari c'è anche il rischio che il gioco sia completamente diverso, cioè, o comunque che, diciamo, cose che si sono viste e poi sono state, diciamo, molto rimaneggiate, eccetera. Ed effettivamente, Andrea dice ricordo positivo risalente al 2004, però, perché nel senso. Mostra il trailer di Forza Horizon, un caso io. Va bene, Jacopo, mostriamo Forza Horizon, visto che ti piace così tanto. No, perché entra nel discorso, cioè stiamo parlando di questo, no? Stiamo dicendo... Dici questo breve, però. Quello che ti pare, sì. Cioè, Forza Horizon 5... Una presentazione di 20 minuti, nel senso, potrebbe essere un po'... Cioè, Forza Horizon 5 è un gioco che tutti quanti più o meno si aspettavano. Se c'è stato un 4, probabilmente ci sarà un 5. Ma prima di tutto non se lo aspettavano così presto e si sapeva che Playground stava lavorando a Fable. Quindi vedere questo trailer così presto, ma soprattutto il gioco esce fra poco, cioè esce a novembre. Sì, esatto. E vederlo così bello, cioè a me ha fatto veramente cadere la mascella, nel senso è spettacolare, è fatto benissimo. Sì. È tutto gameplay, eccetera. Per me è una maniera perfetta per annunciare un gioco che già, diciamo, le aspettative sì ci sono, ed è un gioco che magari resta nella mente dei giocatori, però magari no, cioè è un gioco che preferisci giocare che vedere, no? Perché sì. Invece tu non c'è una storia, magari, anche se è bellissimo da vedere, per carità, cioè, sì, da vedere è tanta roba. Quindi diciamo devi... Vale, che è arrivato in chat. Esatto, quindi devi un po' bilanciare il... Quello che sarebbe l'ideale, secondo me, ovvero fare come nell'industria del cinema, che tu annunci che stai lavorando a un progetto, nessuno ti insulta la mamma, nessuno ti chiede come va ogni 5 minuti su Twitter. Niente minacce di morte. Minacce di morte, cioè... No, beh, ragazzi, quel discorso lì, secondo me, è veramente al limite del... Cioè, no, al limite, è ben oltre il limite del surreale, cioè, nel senso... Non succederà mai, no, infatti. No, però, capito, secondo me sarà il segnale di un'industria matura quando... Come Edgar Wright dice, sto lavorando a Last Night in Soho 3 anni fa, quando era 5 anni fa, va bene, a posto, ciao, ci vediamo quando è finito, faccio il trailer, eccetera. Questa aspettativa non c'è nei videogiochi, cioè tu annunci un gioco, se è un gioco ad alto profilo, ti rompono i coglioni. Cioè, nel senso, nessuno ha mandato minacce di morte a James Cameron, spero, magari non sono informato io, perché ancora non è uscito Avatar 2. Un po' perché forse nessuno lo vuole, però, cioè... No, non è vero, in realtà io lo sto aspettando. Puoi giocare al gioco nel frattempo. Puoi giocare al gioco Ubisoft. Dico... C'è questo problema che se tu annunci un gioco tanto in anticipo, appena comincia lo sviluppo, poi si creano sempre più aspettative e ci sono sempre più, diciamo, possibilità di sfanculare la presentazione, no? Cioè di rendere una cosa negativa. Ah, ma l'abbiamo sentito 7 anni fa che ci è iniziato a lavorare, è così brutto. Oppure, ah, ma ancora non è finito. No. Ah, ma cioè... Sì, perché, diciamo, ragazzi, che... i giochi sono complicati. Cioè, io vorrei che la conclusione di questa puntata sia: i giochi sono complicati. Cioè, come che forse ora che lo fai, che lo dici così in questo modo, mi viene a pensare che effettivamente ci deve essere un po' di questo, no? Anche dietro. Perché uno, come dire, se uno ha visto anche un singolo film, ci sa cosa si può aspettare, nel senso che, ok, può essere, magari viene annunciato un nuovo titolo, ti immagini chissà quale lavoro, è un film, però tu sai che, come dire, più o meno sai cosa aspettarti, cioè sì. Una pellicola che puoi guardare per 2 ore, poi ci sarà, potrai analizzarla, potrai scriverci sopra trattati, saggi, quello che vuoi, però il risultato è quello. Mentre un videogioco, che è un media ancora così tanto flessibile, che puoi prendere, ci sono estremi, appunto, puoi prendere World of Warcraft e Flappy Bird e metterli nello stesso insieme di cose, ed è una cosa assurda perché ti, come dire, ti fa capire quanto sia indefinito e senza capire bene che cosa ci si possa aspettare quando uno annuncia un nuovo titolo e dice: questo è il videogioco migliore mai uscito finora. Uno dice: oh, a quel punto lì la fantasia si permette di volare di più, perché non è un, almeno apparentemente non è un media così limitato quanto è quello di una pellicola che sai che dura 2 ore. Questo è vero. Non ci puoi questo è vero, hai ragione. Troppo sopra. Quindi forse cioè, anche quello. Sì, cioè se uno ti racconta Dunkirk, sai cos'è Dunkirk. Se uno ti racconta Katamari Damacy, non sai cos'è Katamari Damacy. Nessuno lo sa di preciso. Nessuno lo sa, no, questo è vero. Quindi... Scusa, Edo, se devi dire qualcosa. No, cioè, dicevo, cioè, vorrei dire che secondo me, cioè, sembra una cosa scontata, però penso che oggettivamente nessuna casa che sia cinematografica, nessuna casa software, diciamo, voglia mostrare o comunque, diciamo, far uscire un prodotto che non rispecchia determinati standard. Bravissimo, diciamo, nessuno vuole fare un prodotto di merda, esatto. Fondamentalmente, se questo viene fatto, perché vabbè, cioè ragazzi, è oggettivo che viene fatto, non sto dicendo che questo non viene fatto, però mi viene a dire che ci siano stati dei motivi per cui non sia stato possibile fare il contrario. E ok, io faccio l'esempio ancora di Cyberpunk, perché penso che, nel senso, sia quello più conosciuto da tutti, sia quello più recente, quello probabilmente più eclatante degli ultimi anni. Cioè, degli ultimi anni effettivamente sì, perché secondo me prima non c'era tutto questo... appunto questo concetto di hype, questo concetto di oddio, dobbiamo per forza soddisfare i fan vogliono questo. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro, prima il gioco, diciamo, veniva sviluppato in un certo modo e quello era. Se ai fan non andava bene, diciamo, quei fan diventavano non più fan e si creavano magari altri fan, cioè nel senso, sì. Il gioco prima era quello, non c'erano DLC, non c'erano aggiornamenti, non c'era niente di tutto questo. Cioè ragazzi, ricordiamoci che fino a neanche, diciamo, così tanto tempo fa i giochi erano in DVD, in CD, quindi nel senso, quindi questo io, cioè, non per dire, però vorrei spezzare una lancia a favore, diciamo, dei producer, di chi proprio fa videogiochi, perché, cioè ragazzi, accontentare tutti ora è impossibile, anche perché la fanbase, vuoi non vuoi, il numero di videogiocatori negli ultimi anni è aumentato a dismisura, quindi cioè, sì, cioè, è inevitabile scontentare una parte della community, cioè nel senso, ragazzi, dobbiamo cioè, secondo me noi da videogiocatori dobbiamo metterci l'anima in pace, questo, e questo comunque sia ben chiaro, non vuol dire avere degli standard qualitativi bassi, perché per carità, sono cose completamente diverse secondo me. No, questo è vero, è verissimo. Diciamo parlando di... Ah no, scusati pure Jacopo, che poi ho un segue io che... No, beh, era per dire sì, è una cosa che con internet è un po'... che c'è un po' questa, capito, camera di risonanza con hype che si autoalimenta. E io volevo solo dire questo, a me l'hype piace, nel senso io sono il primo che ci casca, io sono il primo ragazzi. Che stava lì a premere il click per Cyberpunk il giorno che è uscito, cioè... È una cosa inevitabile, a me piace le tre, mi piacciono gli annunci specialmente quando insieme c'è il gameplay, anche se so quanto è difficile, quanto tempo richiede, quanto sforzo, eccetera, comunque mi piacciono, e sono parte del problema forse io, nel senso che ci guardo a queste cose, che ci faccio caso a questi trailer, però è anche vero quello che dici tu, cioè che non puoi soddisfare tutti, nel senso non puoi... No, e questo vale anche per i trailer, vale anche per l'hype. C'è gente che oggi si è collegata, scusate, faccio una piccola digressione di un secondo. Stavo guardando il debriefing da Microsoft, diciamo. Hanno fatto questa specie di intervista a qualche sviluppatore che ha mostrato dei giochi alla conferenza, quella principale, e c'era gente che in chat spammava Sea of Thieves e Halo tutto il tempo. Cioè, mentre mostravano Flight Simulator, mentre mostravano tipo Hellblade 2, mostravano, cioè, tutti questi giochi comunque, cioè, Psychonauts 2, che a me, cioè, non vedo l'ora di giocarlo, giustamente, gente non gli frega un cazzo, cioè, ci sono persone che guardano una conferenza con i paraocchi, no? Dicono, io, a me interessa questo, se non lo mostrano fa schifo, se lo mostrano il resto fa comunque schifo, però non è stato quello, no? A me piace l'hype in generale. Non ce la faccio più. Io, Jacopo, un tempo ero come te, ma il mio cuore è stato ferito troppe volte, ormai non ce l'ha fatto più. Scusa, sono scemo io oppure... Dove è finito il trailer? Invece avrei una richiesta per Edoardo, sinceramente. Perché... Quello della campagna. Vai più in alto. Ah, la campagna non c'è, qui devi cercare sul canale di Alonso. Ah, ok. Ah, prima, okay. Scusa, prima di passare alle cose... Sì, certo. Una cosa, perché stavamo parlando di... di cose brutte, di prodotti un po' diciamo non delle cose troppo belle. Non è che potremmo rivederci solo sì. Un attimino prima di passare ai grandi il trailer che hanno fatto vedere del non mi ricordo neanche il nome del gioco per dire quanto mi è rimasto impresso quello di Guardiani della Galassia, il Guardians of the Galaxy. Ok. È quello proprio, sì, non mi ricordo se c'è, il punto è quello, non mi ricordavo se ci fosse un sottotitolo, chissà che cosa. Carino, mi interessa più di Avengers, considerando che è single player. Ah, ho capito qual era il problema dei sound alert, ok, comunque grazie, mi piacciono i piedi delle 2012, immagino, mi dissocio comunque per il follow. Allora, abbiamo detto Avengers... No, penso sia solo Guardians. No, Guardians of the Galaxy, scusate, il follow mi aveva destabilizzato un momento. Questo qui, penso. Mettine uno. Sì, sarò sincero, uno vale abbastanza. Ok. Che cattiveria. Ecco, sarò cattivo io non ho niente contro la Marvel. Forse ho qualcosa contro la Disney, ma quello è un altro discorso. Non ho niente contro i film della Marvel, assolutamente. Mi dissocio nel dubbio, perché ma... come chiedere Barack. No, scherzo. Non, per favore, non mandateci le squadre della morte a casa, Disney. E, tuttavia, ecco, parlavamo di hype, quell'hype proprio... Non so. Malsana, se così si può definire. Questo per me è questo, cioè è questo, nel senso il voler cercare di creare desiderio, cercare di creare interesse in qualcosa utilizzando il collegamento che c'è rispetto a tutto un altro medium, siano essi fumetti o film, in questo caso più fumetti, visto che i personaggi dovrebbero essere quelli dei fumetti. E per per questo titolo che io non riesco a vedere in altro modo se non, non so, una... Si può dire merda su Twitch? Eh sì, se si può dire. Poi io che sono troppo cattivo. Ma... Sei troppo cattivo, esatto. Può essere benissimo, come dicevo prima... Sono morto dentro, per cui ci sta. Ma questo in realtà si collega un po' al discorso. Cioè, il problema è che né io né te abbiamo giocato questo gioco. È vero, e questo un po' è il problema di tutte queste cose che stiamo dicendo. Cioè, l'hype purtroppo spesso si genera con trailer, no? Con cose che non sono giocate. A parte qualche raro caso in cui c'è una demo, una beta, qualcosa. E questo trailer di Guardians of the Galaxy mi ha lasciato un po' l'idea che sì, magari è un po' poco ispirato come gameplay, come diciamo struttura di gioco, però non puoi scartare un gioco solamente perché ti sembra poco ispirato o perché è basato su un'altra proprietà intellettuale di qualcun altro. Cioè, dipende da tutto, da come è fatto, da come si gioca, da com'è il prodotto finale, e noi non lo sappiamo al momento. A te ha fatto questa impressione, a me ne ha fatto un'altra. L'hype è anche questo, cioè nel senso è vero, assolutamente. Sicuramente avrò un po' di, il mio giudizio sarà un po' pregiudicato in questo caso, e non lo voglio certo mettere in dubbio. Quello che mi dà un po' più, non so, fastidio a me è che sono sincero, secondo me, se l'unica cosa che il tuo gruppo di pubblicitari, il tuo gruppo di marketing riesce a inventare per un trailer all'E3 è un trailer a ritmo di musica con sei un guardiano con quelle frasi fatte molto da cinema anni 90, o questo ti do più ragione di marketing, magari col lavoro, però ha anche dei difetti. Il team di marketing aveva veramente poco con cui lavorare. questo ti do ragione. Quella è una cosa che purtroppo io sono convinto, non potete, è difficile farmi cambiare idea in tal caso. Però posso dire un'altra anche una cosa... Scusami, poi dopo passiamo assolutamente da un'altra cosa, è appunto, è anche il fatto che, come dire, il vedere una cosa del genere, dopo aver visto quello che è stato fatto con l'altro gioco, che è quello Marvel Avengers, ovvero quanto tutto quello che è stato un po' uscito a riguardo al gioco nelle ultime settimane, di come storie di microtransazioni e gameplay di nuovo, chiedo scusa, Twitch di merda e cose del genere, e poi pomparti questo trailer super figo, super giovine, perché ormai non, di sicuro non sono più il target per un trailer del genere. A me, non so, a me mette un po' l'amaro in bocca. Ok, va bene. Old man Marco, abbiamo trovato la tua personalità in questa live. Vado a prendere le medicine e poi a letto per le 10. Cos'è quello? Un nuovo pod racer per Nintendo 64? Non vedo bene lo schermo, fatemi prendere gli altri occhiali. Intanto, okay. Grazie per il resub, il maestro in persona finalmente alzi il livello del canale. Esatto, che ho deciso finalmente di dare una spinta al mio canale e sostanzialmente non parlo quando io. Quando mai ti servisse una mano, sai dove trovarci, dire. Esatto. Prossima live ci siamo noi due e Arci. Esatto, io vado via palesemente, tanto sono io, vi do il canale, la struttura, poi il resto fate voi. No, te puoi installare una cosa tipo VTuber o VStreamer e... Perfetto. Abbiamo fatto. Come previsto, quindi, scusate, per crashato. Questa mia... Va bene, abbiamo Jark di sostegno per i nostri podcastari. Dicevo, scusate per la digressione in negativo, abbiamo visto la merda, parliamo delle cose un po' più, le che ci fanno un po' più sognare, dai, mettiamola così. Sì, dai. No, io volevo solo dire una cosa in merito ai trailer, che cioè, effettivamente anche quelli sono dati per scontati, vabbè, e diciamo in generale all'azienda credo faccia, non è sempre vero, però faccia comodo mostrare. Ma in realtà io penso che, poi Jacopo non so, magari tu mi dai conferma, io penso che comunque per i trailer, sia gameplay che diciamo cinematics, cioè, fondamentalmente si toglie tempo allo sviluppo del gioco, cioè in pratica, cioè, tu devi togliere tempo. Sempre. No, Allora, io non posso entrare nei dettagli, però ho parlato alla persona che lavorava ai trailer di Flight Simulator e gli ho fatto i complimenti, cioè, perché vabbè, i trailer che avevo visto fino a quel momento mi erano piaciuti, ero megoglioni, cioè, non posso scendere nei dettagli, però cioè, diciamolo in generale, se hai gli strumenti per fare un trailer e sei bravo a fare trailer, dipende dal trailer quanto tempo toglie la produzione. Ecco, parliamo un po' di questo, cioè parliamo un po', cioè fare un gioco è complicato, stimare i tempi di sviluppo è complicato. Se poi ti devi fermare pure per fare una demo al museo alle 3 e tutti ci cagano sopra, con esatto. Riferimento a un gioco che stiamo per, di cui stiamo per parlare, i tempi si allungano, cioè nel senso è famosamente il gioco che più ne ha risentito è Halo 2 proprio. Halo 2 famosamente mostrò una demo alle 3 che non c'entra un cazzo col gioco finale, cioè nel senso c'è un livello sulle strade di Mombasa, esatto. Non lo so questa. Non... Era, no, in realtà quella demo era carina, c'aveva molta roba tipo scriptata, però era molto grande il livello, c'erano molte strade, molte cose. Però veramente non c'entra un cazzo col livello, cioè il livello finale è tipo un corridoio, cioè. Sì, fondamentalmente sì. No, vabbè, ci misero tantissimo tempo a farlo, tantissime risorse per fare una cosa figa da vedere. E quando tornarono, diciamo, a casa a Seattle, che cazzo abbiamo? Niente, non c'erano nulla. Due animazioni in croce. È quasi controproducente fare una. Esatto, hanno perso tempo, hanno dovuto tagliare un sacco di roba, hanno dovuto tagliare il finale, hanno dovuto tagliare dei veicoli, delle armi, per recuperare il tempo perso a stare dietro alla demo. Però esatto, questo di solito è più per le demo. Perché poi fai promesse, fai promesse che poi non mantieni, fai di nuovo le aspettative. Esatto, anche questo è per... Ma a volte sì, a volte no, dipende dalle persone. Cioè, a volte tipo God of War, quando mostrarono per la prima volta il nuovo God of War, l'ultimo uscito, il gioco non c'era. Perché dice, ma anche Cyberpunk, quando abbiamo visto il gameplay, era finto. Però, diciamo, God of War ha fatto una scommessa e l'ha vinta, nel senso... ha scommesso che le meccaniche mostrate, la storia, sarebbero rimaste quelle, infatti in questo stato. Esatto. Cyberpunk no, era una cosa molto più, diciamo, ambiziosa. E, vabbè, ripeto, è difficile. Cioè, è difficile dare un'idea del gameplay, di come sarà giocarlo, senza averlo finito. È difficile, cioè, è difficile. Okay, no, vabbè, non volevo aprire un vaso di Pandora, però... Oppure puoi far uscire il primo livello del tuo prossimo, il primo capitolo del tuo prossimo titolo come gioco a sé stante, come una persona di cui parleremo poi più avanti nella puntata. E anche lì poi si parla, anche lì aspettative forse un po'... Stiamo hypando il finale della puntata. Esatto. C'è Jacopo, Jacopo che dice... Immaginate il trailer di Flight Simulator fatto da Maggio Capatonda. Beh, comunque è un buon crossover, è un buon crossover secondo me. Sarebbe bellissimo. Esatto, e Andrea giustamente dice quante volte abbiamo giocato quella demo IA riferendosi a quella di Halo 2, vabbè. Quale demo? Quella di Halo 2. Okay. Quella che hai appena citato tu, no, sì, l'ho vista diverse volte, sì, l'ho vista parecchie volte, anche adesso ogni tanto la riguardo, come nostalgia. Comunque dai, io mi sinceramente guarderei il trailer di Halo, sia quello, cioè appunto mi dispiace ancora ragazzi per il podcast, ma lo commenteremo ampiamente. Diciamo. Arriviamo, sì, dai. Possono recuperare la puntata sul canale ufficiale di X Radipo X. Esatto, spiegatevi magari. Esatto. Guardate Instagram, guardate Twitter, non lo so. Non ho Twitter. Guardiamo te, esatto. Sia campagna che multiplayer, perché sinceramente a me sono piaciuti tantissimo tutti e due. Se proprio dovessi scegliere, l'hype mi è cresciuto di più per il multiplayer, ma a me anche i cinematics della campagna sono piaciuti un bel po'. Alzo un pochino il volume perché almeno tra l'altro faccio un'osservazione, stavo parlando ora di Halo 2, la persona che ha mostrato quella demo di Halo 2 è la stessa persona che ha presentato esatto Staten, che è tornato in Halo dopo tanto tempo. Beh, speriamo che il lavoro finito sia, diciamo, più o meno simile, perché io spero che sia meno messo in mezzo con lo sputo. Cioè, ho sentito storie dell'orrore sul codice dello 2, è una cosa veramente messa insieme con lo scotch, cioè quel gioco si tiene... rubrica codice. No, si tiene in piedi per il miracolo quel gioco, cioè quando senti i modder rinunciare vuol dire che hai fatto un lavoro veramente terrificante. Perfetto. Stupendo, bellissimo. Cioè, è più facile, ti giuro, cioè, è più facile trovare modder per Halo Reach che per Halo 2, nel senso, per quanto tempo è passato dici, vabbè, ma... Halo 1 puoi giocare a Dark Souls in Halo 1 se vuoi. Halo 2, cioè, momenti, manco Halo 2 ci gira in Halo 2, nel senso, è un miracolo. Ragazzi, Halo 2 già... non gira nemmeno Doom, per dire. Esatto. Ormai preso come paragone di tutto Doom per l'ottimizzazione. Beh, questo, diciamo, mi sembra meno un lavoro raffazzonato, se posso essere sincero. Un po' più... Beh, cavolo. Cioè, secondo me questo è un trailer che mette un hype incredibile, cioè, perché, cioè, fondamentalmente della storia non si capisce nulla. No, anzi, o meglio, è confuso di più. esatto, confonde ancora di più. Però, cioè, a me tutta questa ambientazione misteriosa, eccetera... Ma secondo me questo era un trailer per i mega fan tipo Xperia, questi qui che ci perdono i mesi di vita a stare a analizzarli. Sì. Ma principalmente per mostrare che l'armatura di Cifora è fatta di metallo e non di pongo, come dicevano. Esatto. Cioè, per dire, a me piaceva, a me tutti i trailer sono sempre piaciuti, ammetto che l'ultimo... la gameplay, cioè la demo, mancava qualcosa a livello di dettaglio, di luce, eccetera, di grafica. Questo trailer, secondo me, era per dire ci siamo. Come? Sembra tipo quel materiale che usano i cosplayer, sembra il cosplayer. Sì, esatto. Buonasera Spartan. Giustamente, buonasera Spartan. Ah, buonasera Spartan. Cioè, che poi, ragazzi, a me l'armatura, che poi ho... è molto simile a quella di Halo 3, cioè a me questa fa impazzire perché è semplice, cioè secondo me sono tornati su, diciamo, sulla semplicità ma fatta bene. È la migliore versione dell'armatura mai. Sono veramente d'accordo, cioè veramente tanta roba. Ah, forse era subito quello dopo. Potete avere anche l'opinione di uno che, come ha già raccontato, non se ne intende tantissimo. Vai. Cioè di Halo in Sofiero. Generale. Benvenuto, e anche Sofiero. Per uno che non conosce tutta la storia, comunque il trailer è interessante, cioè addirittura comunque in media stress con Master Chief perso in mezzo allo spazio, in mezzo a questa nave distrutta. Esatto. E comunque crea un mistero di, anche se uno non conoscesse tutta la storia dietro delle AI, che comunque non si può dire che io sono completamente all'oscuro della storia di Halo, semplicemente non sono un esperto, un appassionato come voi. Anche scoprire una specie di mistero sulla, a quanto pare, questa AI mancante, questa Cortana che manca all'appello, no? E pare un intrigo dietro su che cosa possa essere successo. Anche questo, come dire, anche per i meno avvezzi, di sicuro crea interesse. Sì, c'è questa cosa bella che secondo me l'hanno un pochino forzata, però è sempre bello avere un protagonista che non ha idea di che cazzo è successo e deve cercare di un po' ricostruirlo. E quindi c'è qui Master Chief e dice, ma boh, ok, non so di cosa stai parlando, però adesso lo scopriamo. Esatto. È uno degli spiriti narrativi migliori da usare in un videogioco in cui il giocatore deve prendere i panni del protagonista, perché se il giocatore non lo sa, è bene che anche il protagonista non lo sa. Esatto. Sì, cioè, forse Master Chief ha un po' il problema che ha un legame, diciamo, emotivo, anche se qualche fan si potrebbe arrabbiare, con Cortana molto forte, quindi diciamo che per storia pregressa e per eventi recenti probabilmente lui ha più interesse a trovarla del giocatore, però comunque cercano di dire almeno c'è un mistero, almeno c'è qualcosa di interessante da fare intorno, non è solamente lore, non devi per forza essere lì al 100% con Chief. Fondamentalmente può anche fregartene il giusto di Cortana, secondo me. Questo un po' è quello che ho che ho preso, cioè. Però vedremo come sarà. Cioè. Ci può stare. Effettivamente la reazione di Chief quando la nuova IA gli comunica che, insomma, Cortana sembra essere stata dismessa, diciamo. La sua reazione è, cioè, è sorpreso, magari anche dispiaciuto, ma cioè, finisce lì poi, cioè, insomma, non sembra che abbia, vabbè, non sembra nel senso. Poi, come da buon cliché, la faccia di il viso di Master Chief non è dato saperlo, conoscerlo, quindi esatto. Diciamo non lo sappiamo qual è la sua vera reazione. Poi, incredibile, opinione puramente personale, quanto, cos'è, ha parlato per tipo 20 secondi, 30, e la nuova AI, quella lì, e mi sta già antipatica, così. A sentimento, Sì, cioè, almeno ho dato l'impressione di essere un personaggio a cui ti affezionerai, perché quello è più il pilota, no? È più quello che ti parla all'inizio, che c'era nei trailer vecchi. Può essere che sia questa personaggio che all'inizio ti sta un po' sul cavolo. Poi... no, esatto, forse è quella funzione, ma mi sembra più un modo per rimpiazzare Cortana con qualcosa di più giovane in senso di AI, cioè proprio che ha meno emotività, che ha meno senso dell'altro, no? Ha solamente il senso di se stessa e di quello che deve fare e non mostra troppe emozioni per gli altri, non mostra troppe emozioni per la propria vita o la vita degli altri. Ed è bellissimo perché viene fuori anche proprio nella voce, cioè la voce è la stessa di Cortana, ma è completamente diversa da Cortana, cioè nel senso l'attrice è la stessa, ma il personaggio non c'entra un cazzo. Cioè lei, secondo me, già interiore è stata bravissima in questo. Nel dettaglio, non lo sapevo. Proprio la cadenza è diversa, l'atteggiamento è diverso. Ma vediamo che ha fatto partire assolutamente il trailer del lo rimettiamo da capo perché è troppo bello, cioè ragazzi. Ecco, questo secondo me... Cioè ragazzi, già la scena iniziale, nel senso... Questo crea abbastanza... Questo cioè, è un altro iniziare un trailer così, boh... Cioè, se pensiamo davvero al trailer dell'anno scorso sulla campagna e poi guardiamo questo, boh ragazzi. Tutti altri livelli. Se posso permettermi, cioè io, avendo visto quel trailer, già avevo detto, ma comunque a guardarlo mi sembra un gioco divertente da giocare. Guardando questo trailer mi sembra, cioè, boh, esilarante da giocare, nel senso proprio... Proprio non si è riusciti a creare, come dire, a riconoscere il pubblico, no? Da una parte c'è la storia che è seria, cupa, tra virgolette, comunque profonda, e poi hanno riconosciuto che il multiplayer è per divertirsi. Hanno è fatto cazzone, e noi sono entrambi. Sì. Penso l'abbiano fatta così apposta, così non ti affezioni, Chief non si affeziona, quando verrà distrutta non verrà rimpianta, per la loro è tutto. Verrà applaudita. No, la cosa che diciamo prima del trailer che non ti rende un'idea di com'è un gioco giocato, secondo me qui noi, avendo giocato tanto Halo, tutti gli Halo in multiplayer, abbiamo più o meno più un'idea di quello che sta succedendo, cioè c'è più facile leggere l'azione. Magari uno che non conosce Halo, non ha mai giocato multiplayer, gli è più difficile capire un po' a senso il feeling di quello che sta succedendo, l'azione, leggere l'azione. Per esempio. Cioè, da questo trailer io ho capito il feeling delle armi, i mirini, il feeling del colpire, cioè il feedback del colpire uno scudo di un nemico, le come sono fatte i veicoli, le modalità queste qui, diciamo, con il teschio, il rampino, che utilità ha, come viene usato, qual è il suo posto nella sandbox. In effetti, cioè, è vero, si sente, perché si vede che non è cinematografico questo trailer, nel senso che si sente proprio la fisica del gioco nel trailer. Questo è veramente, esatto, sì, sì. È un trailer di sandbox, è bellissimo, cioè è fatto troppo bene. Beh, ragazzi, io lo rimetto da capo a ruota, senza audio, okay. Così. Ma poi metti quello più lungo, quello col... Ah, sì, vero. Con loro che spiegano, che magari si capisce un po' meglio... No, sono serio, quello che è successo a Cortana, giusto? Ignorante. Sentiamo prima il commento della chat. Sì, no, sono serio, con quello che è successo a Cortana è giusto che questa IA sia così. Sì, ma infatti, cioè, nel senso, anche noi eravamo seri, cioè ci sta, nel senso, come pensiero, cioè, di base, cioè, se poi ovviamente se la storia effettivamente andrà lì, devono anche, dipende poi ovviamente come vogliono metterla, perché se vogliono creare un po' di emotività nel fatto che venga distrutta, devono anche riuscire a fartela piacere prima, non possono semplicemente fartela odiare e basta, altrimenti non ci sarebbe molta felicità nel distruggerla. Poi lì, oddio, ovviamente, come dicevo, ma Jacopo, storia, per cui che... grazie Jacopino. E invece dicevo, da completo ignorante per quanto riguarda il multiplayer di Halo, questo video rappresentava abbastanza il multiplayer o era un po' esagerato come quelli che si vedono magari di i vari come si dice, dei vari Battle Royale, più Battle Royale, pensavo, sai, quei classici trailer di PUBG che si vedevano qualche anno fa, gente piena di sparatorie, esplosioni. Poi nel gioco è... Poi in un cespuglio, tipo, sì, esatto. No, secondo me è abbastanza rappresentativa, specialmente di un tipo di gioco che è Victim Battle, che l'hanno voluto mostrare molto di più del solito. Esatto. Cioè, perché Halo, come dicono anche loro, è la sandbox, no? Tu vuoi mostrare la sandbox, vuoi mostrare questa scatola di giocattoli che puoi far interagire fra di loro, e un bel modo di mostrarlo è usare Victim Battle. Però la cosa bella è che hanno mostrato anche mappe più piccole, con comunque gameplay più massacro tutti contro tutti, mi è sembrato di capire, non so, Edo, se, cioè, quello che ho visto io era quello lì, era, che comunque sono due capisaldi di Halo. Non hanno mostrato troppo MLG competitivo, o piuttosto che SWAT, o cioè modalità, capito, più pro, però comunque secondo me è un buon mix di quelle due. Cioè, ma sai, secondo me comunque non serviva a mostrare le modalità pro, MLG, SWAT, sniper, quel che è, perché sai che è Halo, quindi fondamentalmente sai che, cioè, quelle modalità ci saranno. Secondo me era più, e secondo me è anche più giusto, nel senso, se vuoi attirare giocatori nuovi, comunque far vedere un po' tutto l'ambaradan che c'è dietro, quindi più armi, più veicoli, le novità che poi ci sono, che appunto il rampino, gli equipaggiamenti. Esatto, questo video è comunque bello. Devo dire che, cioè, io non ho complaints, insomma, cioè, nel senso, sì, da quello che si vede qui è tutto, cioè, è tutto, diciamo, la versione migliore di quello che ci aspettavamo, perché comunque la discussione è partita, giustamente il simpatico Vorla aveva fatto notare, sì, però il rampino, che già si era visto in una campagna, in multiplayer sembra troppo, diciamo, sbilanciato, no? Perché puoi arrivare da qualsiasi parte, non puoi usarlo di continuo, non può essere una cosa che tu hai sempre, no? E quindi potenzialmente è molto sbilanciato, potenzialmente. Esatto, e quindi qui hanno fatto vedere che è qualcosa per cui tu devi combattere, è come una power weapon, no? Perché in Halo le armi si raccolgono, e le armi potenti, le power weapon, sono obiettivi da per cui si combatte di solito, cioè le battaglie si girano intorno alle power weapon, come fosse un drago su LOL, per capirci. Bellissimo questo non l'avevo notato. E quindi il rampino, esatto, diventa una cosa per cui combattere come un Banshee, come un lanciarazzi, quindi è una cosa bellissima, perché magari non so se ha degli utilizzi limitati, però fanno anche vedere che è utilissimo, perché si interagisce con tutta la sandbox, quindi puoi raccogliere armi, puoi girarti sopra un veicolo, assolutamente. È bellissimo che design, esatto, perché Halo è questo alla fine, quindi se tu più cose fai interagire fra di loro, e più rendi tutto coeso, e più rendi le cose, secondo me, apparentemente fair, giuste, no? Sì. Specialmente se sono cose che puoi solo raccogliere. Sì, sì. E poi comunque aggiungi, cioè, secondo me, proprio divertimento e variabilità al gameplay. Cioè, puoi, esatto, fare, cioè, hai molte soluzioni per ottenere un power up, o comunque un task, diciamo, un obiettivo generico. Si sentiva la mancanza di una, diciamo, meccanica nuova di movimento nei vecchi Halo, soprattutto in questo multiplayer, cioè, per molti no. La necessità del rampino, diciamo, nei vecchi molti. Allora, molti hanno criticato la mobilità di Halo 5. A me è piaciuta tantissimo, anzi sono quasi deluso che non ci sia lo scatto pure in questo. Però a molti piace avere una velocità sola, quindi non avere la corsa, avere solo lo sparo, quello senza mirare, cioè avere una cosa molto semplice alla Quake. Però secondo me Halo è movimento, io l'ho sempre detto. Cioè per me Halo è anche, non è solamente sparare, cioè è anche posizionamento, è anche riposizionamento. Mi fa tutta una rimente, che poi non ho capito se lo scatto, cioè perché non si è capito secondo me se c'è davvero lo scatto, sì, se... Sì. Cioè c'è lo scatto, ok. Ok, ya, sei il nuovo idolo di Xavier, Safiero, perché hai detto che Halo 5 ti piaceva, quindi adesso... Ma io ho sempre detto, no, io non me ne vergogno, non è una cosa che ho nascosto. No, vabbè, è bellissimo appunto vedere questo, cioè vedere cose che interagiscono fra di loro, vedere... Boh, cazzata, a un certo punto del trailer si vede... lui che tira una granata, quello con l'armatura figa da samurai, tira la granata, l'arma vola verso di lui e lui la prende, no, al volo. Quella cosa si chiama Combat Evolved, perché in Halo 1 esatto. La gente tirava le granate sui cecchini, i cecchini balzavano verso di loro e loro le prendevano al volo. Per dire anche però è davvero Combat Evolved, cioè quella cosa in Quake non esiste, le armi fluttuano, cioè non è che puoi prendere l'arma che sta là, no, ci vai e la prendi. Per dire, anche uno che sa veramente poco in generale di Halo, il sottoscritto, ha riconosciuto quello come una reference al primo Halo, cioè comunque ha riconosciuto in quella mossa della granata per far volare l'arma qualcosa di Halo per sé, quindi per dire quanto è iconica, che uno che non ha avuto molto a che fare con Halo la conosce addirittura. Esatto. Per me poi Halo ha la cosa figa che rispetto magari a un Battlefield, che comunque anche Battlefield ha questo, nel senso tanta sandbox, Halo secondo me ha il vantaggio della leggibilità, nel senso che mi sembra un gioco molto più leggibile rispetto agli altri. E hanno detto cerchiamo un modo per darti la personalizzazione dell'armatura senza perdere la leggibilità, quindi hanno fatto gli outline come ci sono in Valorant, in altri giochi, per dirti questo nemico. Esatto. Cioè, cercano sempre di dire, questo è un nemico, non è parte dello sfondo, questa è un'arma, questa è una granata. Cioè, è chiaro, è leggibile, anche se è pieno di dettagli, come stiamo facendo vedere ora nel trailer, comunque è leggibile. E questa cosa non c'è in tanti altri giochi. È importantissimo per prevedere cosa succederà se fai un'azione, se fai qualcosa. La leggibilità è importantissima. Ora, possono migliorarla? Cioè, non è... sempre a top in ogni mappa, in ogni contesto. Però è sempre una cosa che cercano di fare e questo si vede. Posso immaginare che il difficile sia non farla cozzare troppo con l'estetica del gioco, no? E sì. Tutto il resto, cioè, non puoi mettere, sì, esatto. Non puoi fare indossare i giubbotti arancioni da autostrada agli Spartan, immagino. Perché esatto. Però vedi, cioè, anche qui metto un attimo indietro che cioè anche in questo scambio, cioè, si vede chiaramente chi, cioè, quando spari, quando stai diciamo colpendo lo Spartan avversario, cioè si vede chiaramente che lo stai prendendo e si vede chiaramente la sua figura, cioè il suo contorno. No, cioè, quello secondo me è geniale. Cioè, in un'arena competitivo, secondo me è qualcosa di fenomenale. Cioè. Poi hai anche il feedback dello sparo che non tutti hanno, che secondo me è stata un'aggiunta giusta. E hai un tempo di uccisione molto lungo rispetto ad altri giochi. Quindi, sì, sicuramente. Sparare per primo non sempre ti garantisce la vittoria se sei abbastanza bravo per recuperare. Se qualcuno ti ha cominciato a sparare per primo, tipo da dietro. Mentre in Valorant, se uno non va nel panico come me, si prende il suo tempo, ti spara da dietro, sei morto. Cioè, ovviamente, certo, ci sono armi più precise, tipo appunto il cecchino, che vabbè, c'è poco da fare. Certo. Però, avere cioè, però un tempo... No, scusami, non volevo interromperti. Vai. No, volevo far vedere solo questa scena, cioè, per esempio... Comunque la qualità, secondo me, anche della mappa, dei giocatori, eccetera, è altissima. Però, ragazzi, cioè, gli Spartan... Ok, questo è uno sfondo bianco, quindi magari è diciamo, aiuta il mio discorso, però cioè, anche solo i contorni dello Spartan, comunque il contrasto è tutto tanto ben definito, cioè si vede veramente bene. E secondo me non è una cosa banale e scontata negli arena, cioè nel senso, per quanto mi riguarda, un Call of Duty per esempio risulta molto molto molto molto meno leggibile rispetto ad Halo. E tu dirai, cioè magari qualcuno potrà dire ok, però è peggio perché così è più semplice, cioè secondo me invece è meglio perché è più semplice. No, esatto, è un po' come chi si lamenta che su Apex si vedono male le persone. Secondo me un po' hanno ragione. Cioè, Apex ha una cosa che a me piace molto, che è la silhouette dei personaggi, che è molto riconoscibile. Mm-hmm. Quindi tu da lontano capisci, ah, quello è un Pathfinder, ah, quello è, capito? Però effettivamente per molte persone, tipo anche quelli che fanno streaming, oh, io guardo uno che fa streaming Apex, non capisco un cazzo, cioè non vedo nulla. Un po' per la compressione, purtroppo. Purtroppo cioè, no. È tutto nel design. E ci sono due cose che volevo dire al riguardo. Ritardare un gioco del genere, nel senso farlo uscire un anno dopo, non è che ha solamente migliorato la grafica, perché quella è la cosa che tutti dicono, ah, ok, hanno ritardato perché tutti quanti sono aumentati la grafica. Cioè, avere più tempo è più tempo per tutti, non solo per il team engine, diciamo. Cioè, hanno avuto più tempo questi di dire, come bilanciamo questi giocattoli? Cioè, invece di dire buttiamo giocattoli a casaccio, no? Come magari in un aggiornamento di Fortnite, e poi vediamo, nel senso vediamo quello che resta nel competitivo, questi sono messi lì a dire come ogni oggetto interagisce con altri oggetti nella sandbox. E quest'altra cosa poi è importantissima, hanno avuto più tempo di fare questa cosa, che è l'Academy, È che tantissima roba, è cioè tanta veramente roba. impiegata. Cioè, questa cosa non esisteva in Halo. Avere i bot che ti insegnano a giocare nelle mappe multiplayer, avere un poligono di tiro, cioè avere l'opportunità di provare i giocattoli contro bot, era una cosa che non esisteva. Cioè, era l'ultimo, secondo me, o il penultimo tassello del puzzle. Spero che sia forgeable, cioè che ci sia nella fucina, perché Speriamo davvero. che siano piazzabili a precimento, perché è tanta roba veramente. Ah, Cioè, ti dà proprio assolutamente. più tempo di dire, ok, un giocatore nuovo, di cosa ha bisogno? Cioè, cosa vuole quando arriva e comincia a giocare in multiplayer? Cosa gli manca, no? Gli manca la conoscenza delle armi, ovviamente, del feeling, del ritmo di Chiaramente. gioco, ma gli mancano magari anche i termini, no? Gli manca, che ne so, se uno dice one shot, se uno dice chiama zona della mappa. Adesso non mi vengono in mente altri termini specifici di dialogo, però vabbè. Sì, però sì, il senso diciamo credo sia chiaro. Sì. Ecco, altra cosa che giustamente dicevano in chat, ragazzi, il pass dialo metterà un nuovo standard per i battle pass. Cioè, io sono abbastanza d'accordo perché, diciamo, di solito comprare un battle pass non vuol dire che tu li abbia tutti a meno di giocare N partite o giocare tot tempo per sostanzialmente ricomprarlo, come poi è su Fortnite. Comprarne uno per averli tutti, cioè, secondo me è davvero tanta roba. Davvero tanta. Non credo che sia questo quello che hanno detto, però. Non Sicura? voglio ucciderti l'hype nella tua Davvero? Ho memoria. capito male? Secondo me quello che intendevano è che è come sulla Master Chief Collection, cioè tu puoi tenere i Battle Pass che hai comprato prima, non scadono. Quindi Ah, in questa. No, se quello tipo ok, quello ok. tu compri i Battle Pass della Season 1, se stai giocando della Season 3, comunque puoi comprare roba della Season 1, cioè puoi sbloccare Ah, roba ok. della season 1, diciamo, se vuoi. È un Ok. po' come su Valorant, che puoi mettere le tue exp su un agente, metterlo in pausa, metterli su un altro, cioè, capito? Sì, ok, capito. Allora avevo inteso male, probabilmente. Quindi per Solo Infinite molto hype. Hype. Sembra un hype Beh, sì. buono in questo caso, no? Non sembra quello È un hype cauto. È un hype cauto. È un hype cauto, ma ora non troppo, sinceramente. Cioè, per quanto mi riguarda, non troppo. È un hype pensato, possiamo dire. È un hype anche alimentato da tutta la storia di... Cioè, da tutta la storia inteso come... storia del... Oddio, del prodotto Halo. Non la storia raccontata da Halo, quella dell'azienda, del prodotto, della Bungie, che comunque è un'azienda che ci ha saputo fare dove in certi campi, in certe cose ci ha saputo fare e si è guadagnata il nostro amore e rispetto, mettiamola così. Invece 343 un po' di meno. Un po' di come, meno. Non dico da me, dico in generale, dico la community. Sì, dai, in generale come per ora, come... diciamo risonanza, come apprezzamento della community, diciamo che la Bungie ha avuto la meglio per il momento. Ma appunto, beh, abbiamo parlato di hype, no? Cioè pro e contro, abbiamo parlato di ritardi, perché ci sono ritardi, eccetera. Ora diciamo, sarebbe il momento di parlare, o meglio, di far partire una sigla, che però kept you waiting, huh? Non abbiamo l'audio, nel senso lo metto dopo. Cavolo, potevamo metterlo. Potevamo mettere l'audio. Mannaggia. Potevamo passarlo l'audio, ma ci siamo scordati. Ah, scusa, c'hai YouTube aperto, possiamo dirgli cerca no, il video. Di... Meglio di no. Meglio di no, dai, non siamo più a fargli perdere tempo. Edo, per favore, cerca il trailer. Okay. Death Stranding Director's Cut. Ma qui allora ci vogliamo far male, perché dovete sapere che ogni anno Kojima, invece che pensare al suo prossimo gioco, pensa come posso far scoppiare i cervelli delle persone alle tre, come posso rovinare la vita a più gente possibile con un trailer... aneurisma magari a distanza, esatto, cioè, aneurisma, è possibile creare un'embolia a degli spettatori. Comunque, leggo una carta, scusate, secondo me è un hype che hanno lasciato cadere dal pubblico, a differenza di CD Projekt, che per Cyberpunk ha creato lei stessa l'hype decuplicando la delusione del momento in cui il prodotto non era quello pubblicizzato. Sì e no, forse, cioè, come dicevamo prima, esatto, sì e no, perché alla fine un po' è anche secondo me, ovviamente, perché con quel trailer che in cinematic è uscito nel 2013, mi sembra, sempre di nuovo, non ha detto più niente. Lì alla fine CG Projekt ha dato quello senza dire nient'altro, quindi tutto l'hype che c'era un po' dietro all'inizio è anche dovuto al pubblico. Poi magari effettivamente è stata colpa sua nell'ultimo anno, però già si sentiva un po' molto all'inizio di quando è scoppiata un po' tutta la polemica, prima che la CD Projekt iniziasse a fare promesse che poi magari non è riuscita a mantenere, l'hype era anche molto dovuta al pubblico. Almeno questo è quello che mi è sembrato. Poi è vero. Un po' di tempo, ma... Sono d'accordo. Penso lì, beh, difficile capire cosa è successo. Sì, cioè... esatto, è stato un problema, cioè, penso, diffuso su più... diciamo, un po' su tutto il contesto, il contorno, e cioè, penso che non sia facile risalire davvero a... Poi di sicuro promesse infrante ce ne sono state, nessuno sta negando quello, cioè... No, no, assolutamente, però sto dicendo... Ha gestito male in certi punti la situazione. È difficile compattare in CD Projekt, che è un'azienda, certo, e umanizzarla dicendo è colpa di CD Projekt, cioè... Sono state decisioni prese da più persone in contesti diversi, con conoscenze diverse. Perché tu... uno viene anche da chiedersi, scusa, ha fatto uscire un trailer e poi 7 anni di niente. Perché a un certo punto ha deciso di far uscire qualcosa, anche se consapevole del fatto di avere in mano quello che aveva in mano, no? Uno dice, ci saranno... è possibile ci siano state pressioni esterne, ci siano... stati, come dire, non sia stata una decisione completamente solo loro di iniziare a fare promesse consapevoli di quello che avevano. Non lo so, però diciamo quello che probabilmente è successo forse è che in quel momento hanno avuto una decisione, hanno fatto una decisione a livello di design, hanno detto questo è il gioco, questo è a livello macro è il gioco, questa è la nostra ambizione, e in quel momento hanno detto ok, cominciamo a fare il gioco, perché magari fino a quel momento non si sapeva cos'era il gioco, da quel momento in poi hanno effettivamente lavorato al gioco, ma perché prima c'era di mezzo The Witcher, no? C'era di mezzo tante cose. Gwent. Questa era ancora tutta una tech demo, nel senso stavano buttando insieme vari sistemi. No, ma sicuramente era una tech demo, no? La prima cosa vista era quella, sì sì. Era una cosa per dire questa è la nostra intenzione. Poi quello che è successo è quello che succede spesso, cioè che non c'erano, come posso dire, interessi allineati, non c'erano delle posso dire obiettivi chiari, dei tempi chiari, non c'era neanche voglia di definirli e di stare dietro ai problemi che aveva il gioco, ai vari debiti tecnici che stava accumulando, non c'era neanche tempo di tagliare in anticipo cose inutili o feature che complicavano troppo il gioco, non c'era neanche magari quella previsione del perché, non so, perché siamo fighi, siamo bravi, The Witcher 3, perché possiamo farlo, cioè vai allo tu a sapere dove si è rotta la catena. Quella cosa che so, la cosa che so è che secondo me sapere che il gioco non poteva uscire a dicembre si sapeva già ad aprile. Questa è una cosa che ci posso scommettere, nel senso posso scommettere che a chiunque chiedevi ti avrebbe risposto no, non ce la facciamo. O ti avrebbe risposto sì, ce la facciamo, ma pieno di bug. È quello che è successo. Cioè, nel senso, per me lì è stata presa una decisione a livelli alti. Però, vabbè. Non voglio mai sapere. Non potremo mai sapere. Questo appunto non lo sapremo mai. Sappiamo che quello che è successo è stato un po' un flop. Speriamo che diciamo, ormai con i dovuti tempi si riuscirà prima o poi a giocare un Cyberpunk. A me è dispiaciuto tanto, perché a me piaceva così tanto l'ambientazione. Non il gioco in sé, ma proprio il Cyberpunk, il filone Cyberpunk di letteratura. Speravo che desse, come dire, via un rinascimento di tutte le cose Cyberpunk, invece... Un po' l'ha fatto lo stesso, se guardi... Sì, esatto. Animato, sì. Cioè, comunque se ne è parlato tanto, quindi secondo me molte persone che magari non erano... diciamo, non conoscevano tutta la letteratura Cyberpunk, comunque anche solo per sentito dire... Poi... Bene, dai, via alla follia! Vabbè, per concludere... Ripeto l'ultima volta, nessuno vuole far uscire un gioco di merda. Questo ci tengo a ripeterlo. Gli investitori meno di tutti, perché... Sì, alla fine... Mettono i soldi. Esatto. Vai. Allora, quello che adesso stanno guardando su Twitch e che nel podcast non potete guardare, forse. Ma che forse potrete immaginare dopo... Potete immaginarlo. È un trailer di Death Stranding... mostrato a queste tre, quindi diciamo parecchio tempo dopo che è uscito Death Stranding. A caso poi così, in mezzo... Così a caso. Apparso all'improvviso come un fulmine a ciel sereno. Perché, cioè, in mezzo a una conversazione, cioè Kojima parlava con il suo amico Jeff Keighley, così in una conversazione molto amichevole, dicevano, come stai? Bene. Diceva Kojima, io sinceramente non ho un gioco nuovo da mostrare perché... La pandemia è talmente una cosa nuova e scioccante che non riesco a pensare al futuro dell'umanità. Perché lui di solito devo cerca... Devo riscrivere la mia Bibbia, no? Le mie profezie. Esatto. Poi deve un po'... Cioè lui di solito cerca sempre di andare un po' avanti rispetto ai tempi, diciamo, attuali, quando esce un gioco. Copiando un po', scopiazzando un po' film, un po' cose, diciamo, della contemporaneità, un po' mettendoci lo suo. Ma sempre con la sua, col suo stampo molto di Kojimata. E qui vabbè, stava dicendo ok, cioè sto facendo un po' mente locale, alla fine ha detto vabbè dai, ci sentiamo un'altra volta, ciao. Ha detto no, aspetta, ho una cosa, one more thing. E ha fatto vedere questo trailer dove c'è il protagonista di Death Stranding. Ce la faccio io. Che prende una scatola dentro una struttura che è chiaramente una citazione di Metal Gear Solid 1 di Shadow Moses. Prende questa scatola, anche quella è una citazione di Metal Gear Solid, ci si mette dentro, aspetta tipo un'eternità, penso, non so, 10 minuti, sta lì dentro a fissare il vuoto dentro quella scatola, fa un balzo lì dentro, e poi si va, e poi esce. Death Stranding, Director's Cut. E non è che dici, oh, Death Stranding, questo gioco famoso di Kojima che non è riuscito a finire, gli hanno tolto i fondi per un terzo capitolo in cui c'era su Metal Gear. No, è suo il gioco, era finito. Però esce Director's Cut, non si sa con cosa. E quindi niente, ci diverte. Io spero che abbiano pagato Norman Reedus solo per fare la scena di lui che salta. Io lo spero. Dentro la scatola, perché... Io spero che qualcuno abbia un video di Norman Reedus che salta dentro una scatola da qualche parte. Ragazzi, ma che cazzo ho appena visto? Ma tu non l'avevi visto questo? No, io non l'avevo visto. Ah, no, vabbè. Ma che cazzo è? Questo trailer è stato mostrato nella stessa conferenza di Elden Ring, che è il nuovo gioco, è il nuovo gioco di quello di Dark Souls, della studio di Dark Souls. E io non riesco a capacitarmi di come questi due trailer possano esistere, a parte nella stessa industria, ma dico proprio nella stessa, lasso di tempo di un'ora, cioè, vabbè. Scusate, intanto rimetto roba in sfondo così per allietare. Però giusto per dire, anche chi non ci conosce dal podcast, che questo è il nostro... Questo è il nostro momento Kojima, una rubrica che ci accompagna sin dal primo episodio, nei suoi alti e nei suoi bassi, oserei dire. Capite che è difficile parlare sempre di Kojima in ogni episodio. In cui in maniera semi-sarcastica, a volte sarcastica, a volte no, mettiamola così, noi esaminiamo sotto vari punti di vista, sotto il tema della puntata... qualcosa del maestro Kojima, no? Dell'autore di origini giapponese che, come dire, sia per me che per Jacopo, è un po' strano, no, rappresenta un po' quell'idolo, cioè, i cinematografi hanno Kubrick, così, Jacopo hanno Kubrick, hanno... noi abbiamo Kojima, mi pare che altri, aspetta, mi pare che Mads Mikkelsen è qui, ho teso orecchie di Salla, lo abbia chiamato tipo il Tarkovsky dei videogiochi, una cosa del genere. Di sicuro non prendo Todd alla Bethesda come punto di riferimento, questo è poco ma sicuro, quindi da qualcuno dovremo pur partire, e quindi e così, in maniera mezza scherzosa, analizziamo quello che fa Kojima nel suo tempo libero. A volte non diciamo nulla, cioè a volte una puntata abbiamo detto Kojima è giapponese, e questo è stato il momento Kojima. Era sufficientemente quello, non c'era bisogno di dire altro. Perfection. No, però in questa puntata c'entra, nel senso in questa assolutamente, discussione... Beh, direi che se si parla di hype... Se si parla Kojima... di hype, Kojima è bravissimo a generare hype. Leggermente un maestro anche lì, no? Perché Kojima è famoso per rilasciare trailer completamente senza senso. Cioè, tipo questo. Ma in realtà questo era anche molto scherzoso, era molto... Questa era un po' una presa per il culo da parte sua, no? Uno si questa palese, ma proprio palese reference a Metal Gear, e poi bam, Death Stranding Director's Cut. E ci stava, era una battuta, era un inside joke che tutti hanno apprezzato, hanno riso, qualcuno ha pianto, e basta. Qualcuno è finito all'ospedale. Io vorrei ricordarvi la follia che c'è stata durante la rivelazione del trailer di Death Stranding, appunto, con quell'immagine di Norman Reedus che si svegliava ignudo sulla spiaggia, il bambino in braccio, le chiavette USB al collo e gli animali spiaggiati, e poi in cielo sopra queste 5 figure che ma per me quello non è niente. Secondo me quello è un trailer ben fatto per generare hype, mistero, eccetera, e anche gli altri in realtà, cioè tutti i trailer, infatti, a parte questo Infatti mi riferivo poi alla campagna che c'era dietro, che c'era stato tipo, mi ricordo di una live su Twitch, per dirti che me la ricordo ancora, per dire quanto è rimasta in impatto nella mente, che c'era un trailer in loop su Twitch, solo che era coperto da uno schermo nero in cui a ogni loop praticamente veniva, si scopriva della forma di una mano, no? C'era tipo questo, sì, sì, sì. Non so se vi ricordate, no? le varie impronte, sì, sì, di mano che si toglievano da questa patina nera e rivelavano a poco il trailer. C'era gente lì, mi ricordo che c'era Sabaku a guardare, rivela il trailer. Chissà se Sabaku sta guardando noi in questo momento. Non... Può darsi, ciao Sabaku, faremo una puntata anche dedicata a te prima o poi, chi lo sa. Faccio uno squillo, invita Edo a giocare da qualche parte. Comunque no, per me il trailer più significativo di Kojima come Hype Man, a parte quello di Metal Gear Solid 3 fatto con... No, Metal Gear Solid 4 fatto con Metal Gear Solid 3. Cioè un trailer per Metal Gear Solid 4 presentandolo con Metal Gear Solid 3. Vabbè, lasciamo aperto. La cosa migliore è stata la presentazione di The Phantom Pain, Metal Gear Solid V o 5. Perché il primo trailer che abbiamo visto non era per Metal Gear Solid 5, era per un gioco che si chiama The Phantom Pain, di uno studio che si chiama tipo Moby Dick, svedese, che in realtà non esiste, presentato da un uomo che in realtà non esiste. È pura follia! Questo. Solo per avere il trailer, cioè il titolo finale, che sullo sfondo legge Metal Gear Solid, però tu non lo vedi la prima volta, lo vedi ora. Cioè... è una cosa fuori di testa che se più ci penso... Follia. E io ci sguazzo in queste cose, cioè a me è piaciuto tantissimo, perché poi a una conferenza successiva è salito lui sul palco con questa maschera da uomo svedese fasciato, se l'è tolta, ah no, è Kojima, ah no, ok, in realtà è Metal Gear Solid 5. Che disagio. Follia. Cioè pensa quanto è inutile questa cosa, cioè tu hai presentato un gioco... dicendo che non è il tuo gioco. Tu in realtà non hai fatto nulla. Qualcuno ha presentato un gioco. Aspetta, no, in realtà questo è il mio gioco. Che senso c'ha? Cioè, se lo guardi dall'esterno, a me esplosa il cervello. Cioè, ti giuro, io... Ma perché lì è lì che Kojima brilla, no? Con la sua anima da regista più che da quasi game designer in quel momento. Lui, su questo una cosa non si può dire nulla. Lui concepisce appunto quel concetto di teatralità. Quella è pure e semplice teatralità, sì, è proprio è come dire la maschera sul palco, che è l'attore che si toglie la maschera sul palco e rivela, fa la generazione, è la teatralità assoluta, è quello, cioè, ed è quello che in un gioco che ha fatto innamorare per la storia, per il mondo che c'era dietro. Cioè, nel senso, se dovessi scegliere se ha fatto innamorare per il gameplay o per la storia, ha fatto innamorare per la storia. Ovviamente il gameplay assolutamente è una roba assurda, però tra i due, cioè, se c'è stato questo diciamo amore prolungato nel tempo, è anche perché per via di tutto quello che la storia che c'era stata scritta dietro, e non solo perché il gioco era divertente da giocare. E in un gioco in cui si basa tutto, non, di nuovo, non tutto sulla storia, però sulla storia, questa teatralità ha funzionato, è stato... Era quello, sì, ma ripeto, il gioco non c'entra nulla, cioè nel senso... Assolutamente, ma è quello. A me piace in generale, come momento, dico, cazzo, ero vivo quando è successa questa cosa. Però come, è bello, cioè, come quando hanno mostrato... È come quando hanno mostrato Halo. Cioè, la prima volta che hanno mostrato Halo 3, o la prima volta che hanno mostrato Halo 2... Cioè, al di là di quello che è stato mostrato, è un momento che rimarrà, cioè, per sempre, in me perlomeno, cioè, è un momento che mi è rimasto impresso, come quando hanno svelato Outer DST, Halo Reach, cioè, più è qualcosa di misterioso, di strano, così, e più mi rimane impresso, e questo è stato l'apice del che cazzo sta succedendo, cioè, nel senso... Cosa vuol dire che non è quel gioco? Cioè, mi sono ricordato di un altro trailer che hanno mostrato a questa conferenza Microsoft, ovvero il trailer di Outer Worlds 2, magari, che te lo dà. Outer Worlds 2 è un trailer che È un modo perfetto per dire ci stiamo lavorando, perché è un trailer che abbastanza prende per il culo i trailer, la stessa qui, cosa, questo meta trailer, no? Perché è il meta trailer per eccellenza, per lasciare un po' più un impatto, no? Lasciare quel qualcosa che non c'entra nulla col gioco, perché non dice assolutamente nulla del gioco e lo fa notare, però te lo ricordi. Te lo ricordi, ma secondo me dice anche, ti lascia anche un concetto importante, che è ci stiamo lavorando, non metteteci fretta, cioè è solamente un titolo, quindi l'aspettativa è ci mancano anni, no? Che al controllo di Fable, cioè questo trailer rispetto a quello di Fable è uguale, se ci pensi, come concetto. Mondo, tono, titolo, basta, ci stiamo lavorando. Voilà. Questo trailer però ti dà ancora più idea, non ti preoccupare, ci mancano anni. Questo mostro non esiste più, scordatelo. Questi tizi che fanno i fighi, che sparano a rallenti, sti cazzi, cioè è solo tetralità, non c'è niente di vero. Assolutamente. La cosa migliore che dicono è questo eroe è solamente una silhouette, perché non sappiamo manco chi è, come si chiama. L'unica cosa che sappiamo è il titolo. Cioè, è perfetto. Cosa vuoi di più da un trailer di un gioco che non esiste? Il fatto che ti dica, oh, sto gioco non esiste. Cioè, ce lo siamo inventati, si chiama così, ci vediamo fra 7 anni. E comunque questo trailer a me ha fatto veramente collassare. Cioè, a me è piaciuto un casino. Questa si riconosce proprio come l'umorismo della Obsidian, che ricordiamo è la... come dire, è quella che ha creato, perché alla fine sono loro, anche se il nome è cambiato, l'universo di Fallout, che ha fatto Fallout New Vegas, che citavo all'inizio come uno dei miei titoli di videogiochi per eccellenza, e sono bravi, hanno questo si sente proprio come il loro tipo di umorismo. E tuttavia, prima di salutarci, visto che abbiamo parlato di questa teatralità, questo voler lasciare un'impressione più che semplicemente far vedere un trailer al ritmo di musica. Edo sta facendo lo sciocchino. No, beh, quello che per hype. Cioè, per me l'hype in assoluto, cioè io penso che, non lo so, ragazzi, forse più di Halo. Per me questo trailer è l'hype, cioè in senso totale. Cioè proprio... Ok, cioè se volete magari lo metto anche senza audio. No, dico solo giusto una cosa per non rovinare poi l'atmosfera Final Fantasy. Vediamo prima Final Fantasy, poi ci ritrovo io una cosa. C'è problema. Va bene, allora metto un po' l'audio. No, ragazzi, cioè io questo trailer penso di averlo visto... non lo so, cioè probabilmente metà delle visualizzazioni che sono su YouTube l'ho fatte io, cioè non lo so. Cioè ragazzi, non so che dire. E vedi, questo è di nuovo un altro di quegli esempi un po' strani, che perché se uno non conoscesse veramente nulla di Final Fantasy, questo potrebbe sembrargli una cosa un po'... sconnessa appunto, senza un vero significato dietro, quindi uno deve essere già un po' amante qua. Però se sei amante, questo ti dà la botta, questo ti dà... Cioè ragazzi, secondo me... cioè sì, poi è vero, nel senso, come diceva Jacopo, manca il gameplay, quindi effettivamente... No, un po' c'è. Un pochino c'è, però si vede molto poco. Ed effettivamente, diciamo... è stato presentato l'anno scorso e il gioco sarà nel 2022 o 2023, non mi ricordo. E vabbè, comunque ora ci sarà scritto. Però ragazzi, cioè, secondo me è incredibile. Non ho altre parole da dire. Questa è quell'hype che va dritta dritta al cuore, come proiettile una freccia. Sì, assolutamente sì. Ma perché effettivamente della trama... diciamo, si capisce relativamente poco. Hanno buttato dentro talmente tanti elementi anche che non... cioè, effettivamente non si riesce a capire molto. E poi c'è il ritorno, sembra esserci ritorno a questo tema c'è questa ambientazione molto medievale che, cioè, effettivamente forse mancava da un po'. Sì, esatto, questo diciamo l'altra volta con Andrea. C'è esatto. Sempre stato un po' di anacronismo nei Final Fantasy, perché giustamente Andrea diceva, Andrea è stata rescingita per chi non associasse i nomi, diceva comunque un po' di meccanica c'è sempre stata nei Final Fantasy, no? Anche in quelli più high fantasy, no? Sì, quel tocco di cyberpunk, se così possiamo dire. Certo, steampunk, cyberpunk. Però, sì, steampunk. Sì, più diciamo steampunk. Diciamo che gli ultimi erano un po' più tecnologici che high fantasy, no? Il 13, sì, sì, il 15. Sì. Sono tanti anni che non abbiamo così. O effettivamente si potrebbe definire proprio magic punk. Cioè magic punk. Adesso esista da qualche parte. E poi ragazzi, la colonna sonora di questo trailer è qualcosa di, vabbè, come in tutti i Final Fantasy, cioè, diciamo, trovare un Final Fantasy con una colonna sonora non all'altezza, penso che... Cioè ragazzi, ve la metto un altro... Ve la metto a volume un po' più alto, specialmente quando diciamo, diciamo, diventa incalzante. Cioè, secondo me, ho i brividi. Per dire qualcosa sulla colonna sonora dei Final Fantasy. Cioè, penso che... ci sia solo da alzare le mani e... Io ho amato la colonna sonora di Final Fantasy 15. Assolutamente, veramente bella. E penso sia una delle migliori, insieme al 7, vabbè, al 10. Però, assolutamente. Però questa colonna sonora di questo trailer mi sembra proprio Final Fantasy, cioè con le due F maiuscole. Cioè, questo è Final Fantasy, proprio come credo. Sì, assolutamente sì. Specialmente il finale. Ok, scusate, momento rant Final Fantasy, ma... Diciamo, se parlavamo di hype, non potevo ci sta, per carità. È un motivo se sono arrivati al 16. Saga comunque si è mantenuta... Esatto. Saga che era comunque sempre altissima, sì. Saga che era partita per finire in realtà, e poi alla fine è un po' il video quello di Mega 64 dove c'è Sakaguchi, faccio Final Fantasy, poi ho finito, va bene, poi esatto. Entrano quelli dalla porta, oh, c'è piaciuto, devi fare un altro, e come lo chiamo, esatto. Final Fantasy 2? Sì, ah, ok, e qui te li a scrivere, cioè. E io ringrazio che poi abbiano deciso di continuare, perché cioè ragazzi, quale serie ha il migliore capitolo che è il 7 e devono fare il remake per quanto è bello? Pensa a un'altra serie qualsiasi dove il settimo capitolo è il migliore, quando mai? Ma anche perché poi, cioè, anche per forza di cose, perché ormai ce ne sono talmente tanti che sostanzialmente hanno passato tutte le console, sostanzialmente tutte le età del videogioco, fondamentalmente, perché, cioè, nel senso, siamo partiti dai 2D, quelli proprio stile boh, anni, cioè quasi anni 70 fra virgolette, fino a, cioè, boh, Final Fantasy 15, che era così, il Famicom o qualcosa del genere. Sì, esatto. Fino a roba come appunto Final Fantasy 15, che è un open world secondo me assurdo, che purtroppo su console rende relativamente poco, secondo me, a meno di non giocarci su One X. Boh, non lo so, va bene. Non voglio andare a parlare 16 ore di Final Fantasy, però... No, perché era, però... Non mi ricordo se l'abbiamo fatta alla fine o era tra i programmati. Non c'è un episodio dove parliamo di Final Fantasy? Può esserci, lo creiamo. Creiamo, NES 1987. Prima di... Giusto. Famicom. Era il NES, devo ammettere che non mi ricordo. Ma il NES non è proprio il Famicom, non è la stessa cosa. Cioè non è il nome del Famicom. Dire cavolate, siamo... Vicino alla mezzanotte inizio a non carburare più. Sì, infatti, non volevo rovinare così tanto il mood alla Final Fantasy adesso, però, come dicevo prima, secondo me c'era un altro che andava citato, soprattutto in questi ultimi due anni, che Vai. Secondo me andava citata, giusto per dare credito dove credito è dovuto, no? Perché merita. E volevo giusto mettere i riflettori su quello che aveva fatto la Devolver Digital negli ultimi 2 anni, per 2 o 3, non ricordo se anche l'anno scorso è saltato per il Covid o era proprio l'anno scorso da cui è iniziato tutto. No, l'anno scorso è stato esplosivo. La Devolver Digital che belli che sono, quasi in stile Kojima, perché simile, ma non proprio, ha creato un Devolver Cinematic Universe per raccontare le sue prossime uscite nelle conferenze di... Beh, mi sembra sia partito l'anno scorso, appunto perché mancava le tre, o mi sto sbagliando, era l'anno prima, Jacopo, poi devo ammettere che ho un vuoto di memoria. Allora, sono almeno 4 anni, secondo me, se non 5. Però in questi ultimi anni, appunto, sono usciti dei veri e propri piccoli film molto... come si può definire quel genere? Molto... Ma hai presente le Kung Fury? Oddio. E sono dei piccoli capolavori, molto strani, molto anche lì di quell'umorismo... Non so nemmeno come definirlo, però sono dei piccoli, appunto, delle piccole gemme, durano tutti, non so, quando una mezz'oretta, sono delle presentazioni. Vai, rimettialo, lo rimettiamo. E, sì, no, guardiamo quello raccato. Adesso perché dura troppo, però se vi capita di andarlo a vedere, proprio come guardarsi un episodio di una serie televisiva, e fa abbastanza, fanno ridere, sono ben scritti, sono ben fatti e... un buon modo per passare una ventina, una trentina di minuti, quindi volevo anche fare loro i complimenti per quanto insignificanti siano i complimenti fatti da me. A parte Halo, lasciando perdere Halo, per me per Edo, qual è stato il gioco, un gioco dite solamente, che più vi ha messo hype in queste tre? In queste tre? Beh, ovviamente Mario e Rabbids. Scusa, no. Come no? Sì, no, ovviamente quello. Ma infatti dicevo, Jacopo, dovevi dire a parte Halo e a parte Mario plus Rabbids. Se no, dopo, cioè, voglio dire, non è che ci lasci molta altra scelta. Esatto. Io ce ne ho uno, ma solo perché, come dire, per pura preferenza personale, nel senso che, come dicevo prima, non so, ho smesso di avere forse un po' hype per i grandi titoloni e cose del genere. Aspetto sempre. Vabbè, qualsiasi cosa, un titolo, non importa. Allora, il mio è, devo ammettere che spero di ricordarmi il titolo, Salt and Sacrifice, che dovrebbe essere il seguito di Salt and Sanctuary, che era un gioco in stile 2D, un gioco stile Dark Souls in 2D, che a me è piaciuto molto, molto carino, l'ho trovato molto ben fatto per essere anche lì un titolo molto indie, fatto da, credo, un paio di sviluppatori, ma anche lì non vorrei dire una cavolata, e mi fa piacere che abbiano avuto abbastanza successo da fare un seguito, e sono curioso di provarlo perché mi è piaciuto. Uedo, a parte Halo Infinite? Le sto riguardando per... Allora, ragazzi, sarò banale, ma a me è piaciuto tanto... Allora, sinceramente, il trailer che più mi ha lasciato senza fiato è stato quello di Flight Simulator. Cioè, per me è stato veramente tanto bello quello di Flight Simulator. Ma proprio ti bello. Guadagniamo le sub, vedo. Poi, se devo dire, secondo me un po' a pari merito ci sono stati Stalker 2, che mi è piaciuto molto, e Battlefield. Battlefield come diciamo scenografia, cioè molto cinematografica, mi è piaciuto parecchio. Poi forse non lo giocherei, però diciamo al di là del giocarci mi è piaciuto tanto. Anche perché, Jacopo, a fare questa domanda ti viene un po' impressione al vedere quanti questi annunci siano già stati annunciati prima un pochino da in queste tre, tutti questi. Stavo guardando Edo che scorreva la pagina con le varie preview dei trailer con le copertine, diciamo, dei trailer che si erano messi alle tre, e di quanti titoli che, come dire, si erano già visti un po' anche prima. Vabbè, sì. Certo, Party Animals mi ha intrigato, devo dire, cioè mi ha ispirato. Sì, carino. Effettivamente sembra molto carino. Il minifrigo, molto figo il minifrigo. Ma io ero convinto che Party Animals fosse già uscito, perché convinto. Quanto pare no. Il minifrigo è tanta roba. Il minifrigo è spettacolare. Sì, anche da chat comunque dicono Stalker 2, Forza Horizon. Forza Horizon, tanta roba. Io devo essere sincero. Io ho un problema, nel senso che Psychonauts 2, più lo vedo più mi incazzo, perché voglio giocarci, non voglio vedere un trailer. Quindi cioè, ho la reazione opposta, che più penso al trailer più mi incazzo, più penso al gioco più voglio giocarci. Però a me, a parte Halo Infinite, sinceramente il gioco che più mi ha intrigato è stato Somerville, che è stato un indie in questa conferenza, perché io sono un fanatico di Limbo e di Inside, e c'è un tizio che ci ha lavorato tra quelli. Ci sta. E direi sì, cioè un trailer che... È uno di quelli che passa più in sordina, però effettivamente hai ragionissimo. Però diciamo, questo è un gioco a cui sono interessato. Se devo dire proprio una cosa che mi ha messo più hype, è Sea of Thieves con Piedi Regali. Mi spiace. ci sta. Bellissimo. Cioè, devo essere onesto, neanche Zelda arriva a quei livelli di hype per me. Così è troppo stupido. Cioè, è la fusione perfetta dei due franchise. Cioè, non potevano... Boh. È una cosa che non avevo idea sia, che non avevo assolutamente idea fosse possibile, che fosse una cosa che stavano facendo, mentre Zelda già sapeva. È un po' come Metroid 5, no? Che hanno svelato Metroid Dread. Si sapeva che esisteva, cioè tu vai a vedere, c'era un leak tipo 15 anni fa, si sapeva che esisteva. È fenomenale che esista adesso, che l'abbiano fatto alla fine. Però si sapeva, è una cosa che già esiste. Ragazzi, questa cosa, questo boh, cioè che cos'è? Che vuol dire? Cioè, come fai a pensare che una cosa del genere... Cioè, manco fosse, dici, Smash Bros, che vedi, Jack Sparrow in Smash Bros. No, ma è Sea of Thieves, ma che vuol dire? È un gioco a parte. Che potrebbe succedere. E poi, per carità, a me l'ultimo periodo di Galaxy non mi è piaciuto. Mi ha fatto abbastanza annoiare. Però, cioè, boh, mi sembra una cosa talmente... Non so. Mi mette felicità, non mi mette... Anche, ok, dice la Disney, che schifo la Disney, però, boh... Sì, però è quella gioia fanciullesca, comunque... Sì, esatto. No, ma infatti ci sta, no. Poi, opinioni politiche sul capitalismo a parte, cioè, lo capisco. Esatto. Poi non ci giocherò probabilmente, cioè, nel senso, non so se arriveremo a giocarci con questa stanzione, però devo dire che come hype isolato, non essendoci Master Chief in Smash Bros. Ancora, questa l'alternativa. Dovrà, diciamo, succedere prima o poi. Prima o poi succederà e io perderò la testa, cioè quando faranno il trailer di Master Chief che arriva. Quando metteranno sulla Switch vedrai che... Sai cosa devono fare? Allora, adesso vi dico una cosa e voi penserete, ma certo, ecco, sarà così. Faranno un remake di almeno 5 secondi di Aloyd, il famoso video di Monty Hum di Master Chief contro Samus. Sicuro, faranno Master Chief contro Samus e io morirò. Cioè, io potrò morire felice. Quando vedrò Master Chief che spara a Snake e che infizza con la spada Mario, sarò un uomo felice, potrò morire. Tanta roba. Arriveranno Sephiroth e... Esatto, Sephiroth lo sfido. O su Brawlhalla. Di Dragon Quest. Non ti in mente adesso che non abbiamo minimamente citato il videogioco dello spazio di Bethesda, che mi sta sfuggendo il nome. Ah, Starfield. Non c'è molto da dire. infatti. Cioè, sembra bello, ma non si è visto sostanzialmente niente. Ecco, vedi, niente, quello secondo me è un trailer che cerca di creare hype. È esattamente quello che hanno fatto per Cyberpunk 2077. È quella cinematic di presentazione, si vede una cosa un po' figa, però gli è venuta male, non è venuta bene, cioè non mi sento così hypato come mi sentivo per sempre. Sì, sono d'accordo, secondo me non è... Cioè, posso... È nello un po' spazio. Posso capire che è in hype, cioè un po' posso capire che... Ok, nuovo engine, nuovo tutto, cioè c'è comunque un senso di universo, c'è un senso di fisicità delle cose, però boh, me non è più niente. Non mi ha hypato, insomma. Almeno in Cyberpunk c'era una specie di storia, no? C'era questa sensazione, no? Vedi, questa era letteralmente una scena della donna che però veniva raccontata un po', no? C'era, si intravedeva prima questo conflitto, prima c'era, non si capiva cosa fosse successo, poi si vedeva questa strana donna macchina con le lame amantide, poi si introducevano questi tipo agenti speciali che sembravano lì per fermarlo. C'era una piccola storia dentro. Qua è letteralmente, ti fa vedere, siamo nello spazio, abbiamo gli elmetti, ah, sì, e stiamo andando a spaccare culi, a esplorare lo spazio, ok? Non, ci provano a fare una storia, però non so, non mi ha colpito minimamente se ripenso a quando è uscita la prima volta il trailer di 2077. Forse è stato più uno sfoggio di cose, cioè di immagini, ma niente di... È stato, come dire, anche questo era il... Ci stiamo lavorando in versione Bethesda, no? Come... Esatto. Per dire, ha quasi fatto più hype, non quasi, ha fatto decisamente più hype lo screen della montagna con scritto Elder Scrolls. Sicuro, sì, sì. Sopra, quindi... Merda. Non so. Io lo sto aspettando, ma non ho così tanto hype, mentre per Stalker 2 non voglio vedere altro perché voglio giocarmelo senza sapere niente. Ci sta. Anche quella è una corrente di pensiero, diciamo. Perché effettivamente in alcuni trailer, magari, un po' come nei film, magari si vede troppo. È vero. Quando vai a giocare poi dici vabbè, ok, però nel senso qual è la novità, quindi cioè, ormai ho visto tutto. Forse per i giochi che si basano sulla storia è geniale. Sì, sì, sì, esatto. No, io non vale per tutti i giochi, però boh, oggettivamente no, per me vale, cioè se a un gioco ci tengo poi mi incazzo, tipo ho visto Tim Schafer prima oggi stasera ha presentato Psychonauts 2. Vaffanculo Tim Schafer, cioè no, non è vero, ti voglio bene, adottami, fai quello che vuoi, però cioè, ha spoilerato tantissima roba della storia, ma tanta. Ha detto un sacco di cose che erano dei misteri del primo capitolo, che ancora non si sapevano. E io sono lì a guardare, ho detto, oh cazzo, ma questa cosa forse non dovevi dirla. Cioè. Però vabbè, ci sta. Stanno anche cercando magari di, non so, riattivare un po' il fuoco per una serie che, tutto sommato, è passato un bel po' di tempo dal primo. No, no, sì, sì, è vero, cioè capisco perché l'ha fatto, non sono spoiler enormi, cioè sì, più o meno si capiva, però... Sì, no, poi che non ci possa rimanere male, comprensibile. Boh, vabbè, comunque, no, sì, Stalker 2 è tanta roba, graficamente è impressionante. Ah. Mi è sembrato... Non so perché mi dà l'impressione di essere fluido, cioè proprio fluido. Non ho capito, non capisco perché mi dà questa impressione. O perché comunque già tanti FPS, proprio. No, non credo. Forse animazioni, le transizioni. Forse sì, so proprio come sono fatte le animazioni. Esatto, perché non sono quelle fatte in motion capture, cioè si sente che secondo me, o almeno a me dà quell'impressione. Mi sembra che siano quelle che siano comunque fatte un po' a mano, senza motion capture, però sono molto lavorate. Comunque devo dire che ultimamente sono molto più bravi rispetto a prima. Magari qualche anno fa i trailer li facevano altri, invece ora li fanno di solito dentro lo stesso contesto, o comunque sono molto controllati, quindi... È difficile magari che un trailer di The Last of Us 2 ti spoileri cosa succede in The Last of Us 2. Magari ti spoilerà il mood, no. Però io, cioè, a me hanno spoilerato di più le immagini, quelle delle thumbnail di YouTube di The Last of Us 2, sinceramente, per esempio. riesco a pensare a dei te recenti che mi hanno rovinato una storia o qualcosa, sincero. Ci dovrei pensare parecchio, adesso non so, così su due piedi non mi verrebbe sicuramente. Sì, effettivamente. Cioè, lo fanno più dei film, paradossalmente. Sì, dei film alcuni sono terribili, secondo me. Però... Lasciamo che sia Salla a parlare di cinema. Esatto. Hanno spoilerato il finale di Forza Horizon 5. Guidi una macchina. È una gara, esatto, guidi una macchina. In realtà... No, in realtà, per la fine che... stavi guidando una motocicletta in una macchina. In realtà alla fine scopri che il Messico eri tu. Esatto. Il Messico è sempre stato dentro. Era solo una motocicletta con un grosso cruscotto che occupava tutta la... Oppure tipo si vede volare via la copertura a forma di macchina, alla fine sotto c'è la motocicletta. No, pure c'è Batman, c'è Batman a fianco a te che dice questa non è un'auto, e tipo si alza in volo. Bene. Che dire, io penso di aver detto veramente tutto quello che avevo da dire. Abbiamo... Sì, devo dire che abbiamo spaziato parecchio alla fine. Vostra opinione puramente personale per chiudere il discorso. Hype sì, ci vuole o hype meglio di no? La vostra opinione finale, anche prevenuta. L'hype è come la morte. Oddio. Una vita senza hype non è degna di essere vissuta. Bam! Mamma mia, il filosofo. Non penso che dopo questa si possa aggiungere veramente altro. No, infatti, cioè, mi alzo, alziamoci, andiamo, basta. Secondo me sì, hype sì, ma... E vorrei essere poi hype. E vabbè, funziona tutto, esatto. I dissocio. hype sì, però secondo me... Cioè, non con moderazione, però che abbia una solida base, cioè, nel senso... Torno sempre lì, non... Non hype alla Cyberpunk, ma hype come spero che sia quello di Halo Infinite. E nel frattempo, mi tocco perché... ora l'ho proprio gufata alla grandissima. Quindi... Questa era perfetta. Ah, e tu, Marco? Io leggermente per hype, no. Così. Datemi... Che persona triste, immortale. Sono morto dentro, come dicevo prima, nel caso. Non so quanto... Io non riuscirei a farlo streamer, sono troppo... Non c'ho più joie de vivre da condividere, mi sa. magari te la metto la chat di Twitch. Esatto. Può essere, dai. Non lo so. Non tu questa. Meno. Questa è la migliore chat di Twitch, tutto Twitch. Ovvio. Oh mio Dio. Best chat. Sono onorato. Best chat hype ever. Per la chat. Hype per la chat. Esatto, hype per la chat. Vedi, a ogni messaggio che appare io ho l'hype per il messaggio successivo, è così che funziona. ci sta. Bene ragazzi, io direi che sul trailer di Battlefield ci possiamo salutare. Questo non è il recupero... No, quello di Battlefield, ok. Prima avevi messo il recuperone di tutto quanto, mi era sembrato a me. Niente, vabbè. Oddio, andiamo avanti, no. Salutiamoci, grazie per... Direi innanzitutto di ringraziare Edoardo che ci ha ospitato questa sera e che ci ha dato questa puntata così interattiva anche con la chat, che è stato un nuovo elemento interessante, fonte di discussioni per tutto l'episodio. Esatto. Quindi salutiamo ancora, invece per i nostri amici del podcast, salutiamo Edoardo ancora una volta, xbradipox su Twitch. Invece? Sì, grazie per aver voluto fare questa, diciamo, mutua puntata a vicenda con ospiti a vicenda. Questo crossover. Esatto. Magari ne possiamo fare un'altra la prossima settimana o fra un po'. Assolutamente, ci sta sempre. Volentieri. Magari con un argomento dove sarai tu a parlare invece che lasciar parlare noi e divagare. No, è impossibile, io no, ho detto no. Io... Se mi dai il microfono io parlo, me sbatto di tutti. Vabbè, ma diciamo, oggi per me eravate, cioè, era giusto che diciamo, prendevate voi le redini della diretta, perché insomma siete voi gli esperti di videogiochi poi alla fine, insomma, quindi è... Senso. Quindi usare questa strana parola che... Expert. Hashtag expert. Hashtag expert. Quindi come sempre io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. Io sono ancora Edoardo, anche, quindi direi.